concerto. Però come andrà meglio? No, non ti intendo, no. Sono entrata via l'Italia a me. Accetta un vago, abile si mi intende. Che attacco amplificatore. Pronto, bombolo. Guarda, sì. Se mi senti, non c'è terrore. Adesso sei un po' anche troppo alto, là, di fronte alla motorizzazione sono là. Chiappa, a me se rompendemi. Momento. Sta spingendo adesso. Ehi, anche da solo mi sta facendo andare il furgone. Siamo vicini. Prima non mi sentivi, adesso mi senti. Come? Ho detto prima non mi sentivi, adesso mi senti bene. Adesso anche troppo saturo, Ma se, dove ce l'hai la stazione? E in quale zona è? Veloce. Quindi è un posto buono, diciamo. Arrivo così. E i 9:30 là. Sì, sono. Se fai uno scorreggio, cazzo, sento anche l'odore, siamo vicini, cazzo. E allora siamo così, dai. Questo è doppio bit. Più bip. Sembra un cane a mozze, papà. Deve essere il mio. Ma quando attacco aumenta anche la radio, No, ma l'altra sera ti sentivo in USB, l'altra sera ti sentivo toccare, però di morigare tutto il lineare, di alzare la radio, capito? Solo che è troppo lontano è mio. Capo, no, USB non stavo usando nulla. Vabbè, comunque già. Un po' ti, quando hai tolto tutto quell'eco e tutta quella cosa già arrivavi. Ecco, io eco non ne avevo, ti stai sbagliando. Questa stavo parlando con Giovanni, o con Capri 2 forse. Eravamo sul 4 l'altra sera. Ma io eco non ne avevo, no, ti stai sbagliando. Io quando parlo in banda laterale non uso mai eco, non ero io, no, era un'altra persona. Sembrava che hai tu là. Ma c'è stato un break, avanti il break. Ciao Antonio, ciao Pinocchetto. Sì, ti stai sbagliando, ero Pinocchetto, Giulio da Sassari. Ah, è giusto, scusami, là. Del lago, non sbrigiamo il male. Mi sto alzando, no, adesso mi stavo ascoltando, ma non mi stai sbagliando. Mi sto alzando, continuate che mi devo vestire. Pappagappa, Giulio. Ma anche ieri notte ti ho sentito, mi piace. Noi la moduliamo quasi ogni sera sul 4, diciamo, è più tranquillo. Lo so, solo che ieri notte appena che l'ho accesa l'avete chiuso subito. Ma io vi ascolto perché la notte mi viene male a modulare, capito? Per non disturbare il QRA. Hai capito, Pinocchio? Ehi, ti ho capito. Che sono dentro Sant'Orso, là. Ah, ok. Va bene, dai, continuate voi, ci sentiamo. Perché me devo vestire ancora, dai. Ciao, ciao, riprendi pure, vai. Cappa, mi arriva un bel forte Benucce, se sia lì dentro Sant'Orsola. Sei di fronte a me. Già, questo 48 già spinge, costa 600 euro se vuole ascoltarsi bene. A voglia, va benissimo va. Esce con 4 fratte, capito. Non ce l'hai il piccolino? Ma il piccolino? Il 14 non ce l'hai. Sì, ma non è. c'è bisogno là, diciamo. Non li sfrutto mai la radio là, quando c'è bisogno lo accendo. Ma ragazzi, ancora Santoro, la sei? Sto andando da un mio cliente, beh, che ha fatto da Monello e ci devo dare il carbone. Tutto vada a buon fine, dai, già va bene. gente con i preamplificati questa radio. Vabbè, bene a sapersi. Vuol dire, quando lo uso come microfono normale, non me la fu tenuta. Ah, in effetti bisogna usare un microfono normale, in poche parole, perché se mette l'amplificato ti fa partire il pezzo così e già qua. Certo, c'è un modulatore molto delicato, come rientra, come apre, spinge troppo, deve essere sicuro, hai capito? Adesso, diciamo, quando lo metto a posto uso il microfono normale, tanto è un barattino così tanto per usarlo, ogni tanto. Non funziona bene, Antonio, puoi metterlo anche a 3, non succede niente, l'importante non lo metti a manetta, 3 a 4, lo tieni in basso, capito? Mi viene da Vittorio. Sì, qua ce l'ho, a 2 ce l'ho, e via. Aspetta un attimo, faccio una cosettina e mi dici se va bene, aspetta. Guarda un po', se va bene come radio, distorce, no, va bene. No, la tua è abbinato benissimo, non distorce niente, manco si sente che c'hai l'amplificatore attaccato alla rete, c'hai il 1131. Non ce n'è per nessuno, quei lineretti vanno molto molto bene. Quelli a transistor, ogni tanto senta Gianni, tutto saturo, capito? Quelli a transistor, se non vedere l'alimentazione è giusta, perché uno è usarlo col picco di modulazione, no? Allora non è stabile, infatti non sono diretti e quindi il picco non te lo fa saturare. Però se li dai fissi è un casino, invece questi qua a valvole. Questi soprattutto questi 1131, anche se le dai fissi 10 watt, non succede niente, non satura e sale tranquillamente, si è passato a 920 a 935, quindi a voglia. Lo sto pilotando con 2 watt, non di più, solo con 2 watt e basta. L'ho tarata bene, insomma. Sì, mi segna da 4, 5, da 55 a 80, così. Con l'apparato regolato a 2 watt. No, se l'aumento non mi piace la radio, la dà più pulizia così quando è proprio al minimo del minimo. Infatti siamo molto più. Senta, a dopo, ciao, a dopo. TV, mi sembra che dia buoni risultati, mi sono anche ascoltato qui in cuffie, già va più che bene a voglia, poi non si riscalda così tanto, se lo metto a manetta sembra una stufa, guarda a pelle di questa storia. No, lo metto al minimo e funziona benissimo. Sì, ma Falchetto si è allontanato. È fatto apposta, non ce n'è bisogno di vento, è tutto aperto, capito? È tutto bucato, quindi mi sento abbastanza bene, non c'è problema, io non ne ho vento, il mio scalda un bene, ma non le fa assolutamente niente. È fatto così, non ce n'è bisogno di vento. Se metti la ventola da freddo a nuovo e tira meno potenza, quindi quello lineare deve funzionare così e basta. Chi l'ha progettato non erano stupidi. Se il ventola non ce n'è vuol dire che va bene così. Poi è abbastanza rieggiato, una volta che il coperchio è tutto bucato, sotto, sopra, i lati, non c'è problema, capito? Va bene, ottimo, ottimo, ottimo. Sì, quello sì, già mi sono abbassato, già non sono stupido ma lo sanno. Ma infatti quella transistor, mi stavo facendo la ricerca un po' di mesi fa, no? Ma non sono più in commercio e sono anche fuori produzione il BV130, che poi aveva le stesse caratteristiche del BV131, l'unica differenza che non è poco che quella è a transistor, il 130 e il 131 valvolare. Qualcosa si trova a seconda mano, se lo fanno pagare, ma lo sanno. Proprio il resto già va bene, non sono contento già. Per fortuna già se ne trovano questi, voglio trattarli bene con i guanti, farli buttare al minimo e già ti durerà una vita, voglia. No, l'unica particolarità che stavo provando ieri, abbastanza interessante, è che in banda laterale, sempre con Galaxy, e attaccando l'HP28, guarda, si amplifica il segnale con una cosa impressionante. Fortunatamente QRM non ce n'era ieri. E ti dico che ne tirava pure tanto di quelle modulazioni che era incredibile. Poi la particolarità è che quando attacchi il filtro antidisturbo nel Galaxy ti dà veramente delle belle modulazioni, è una bella ricezione. Cosa che l'ANA 68, guarda, con fronte al Galaxy è una mondezza, perché ti tira anche gli scorreggi di una formica, è troppo, troppo di disturbata, invece il Galaxy è tutta un'altra minestra, anche se sempre un baracchino, però ha una bella ricezione, guarda, con abbinato la KP28 è un bel abbinamento. KP28 che cos'è? Col amplificatore d'antenna? E allora, ma dico che è uno spettacolo, guarda, veramente. Mi sono assillato ieri canale per canale e ti dico che va veramente bene, non ti dà nessun fastidio neanche nell'ascolto col Galaxy, invece con Midland io ne scampi liberi, non fa, Ma un bel Galaxy c'ha un ricevitore superiore, quindi chiaramente automaticamente risponde anche per amplificatore dell'antenna esterna. Quando tu lo metti a una lampada torta, un baracchino così normale, non serve a niente. Già è rumoroso di sé, capito? Baracchini così piccoli già sono rumorosi. Quindi più le metti il amplificatore d'antenna e aumenta solo la rumorosità, la mandetta, eccetera. Invece sul Galaxy va bene. No, tu stai andando molto bene. Anche quando attacchi, ma ti ripeto, il lineare 231 rispetto a questi transitori da te a 100 watt, c'è un abisso, capito? Io ce l'ho e va molto bene. C'ho anche quella transistor, ma non mi piace. La stessa potenza, però ti smorza la radio, non è più bella come quella a valvola, capito? Basta che dai i watt su, i watt giusti, 7, 8 watt, 10 watt, non di più. Va bene, invece a quelli transistor basta che dai più di 5 watt, ti smorza la modulazione. Non mi piace uscire bene le radio, no? Non saturo neanche compresso, capito? No, va bene tu, ottimo lavoro. E cosa ti ha sostituito a te? Non ti posso spiegare, ce n'è presente un finale, io lo chiamo così per la mia ignoranza, la grandezza di un finale, però un pochettino più grandetto, sarà stato un centimetro e mezzo di lato, con tre gambe, rimane verde, con dietro un'aletta di raffreddamento, con la grandezza del finale, e basta, ha cambiato quello, poi non so cosa ha controllato e basta, e lui sta andando. E poi questo qua va collegato direttamente a una LED anche all'interno di raffreddamento, che ha L all'interno dell'apparato per raffreddare, sicuramente anche lui ha bisogno di un dissipatore, e basta, e poi lo so cosa ha controllato e va benissimo. Un'altra particolarità, nel 68 ti sento in tutti i canali, qua anche col preamplificatore, posso tranquillamente ascoltare gli altri senza nessun disturbo da nessuno. Beh, il coso Galaxy è molto selettivo, io ti ho detto c'ho il mio, l'Uranus, che è molto selettivo, va molto bene come ricevitore che come trasmettitore. Purtroppo ho inserito il Tone più 3 e mi ha creato lo stesso problema che ha creato a te, capito? Adesso quando ho 5 minuti una volta in macchina devo passare a Vittorio, non lo faccio fare, non c'è problema, Vittorio, Massimiliano, insomma chi c'ha il tempo per farlo, non è un problema quello. Te lo fai sistemare, te lo fai allineare, se va allineato, diciamo, fai fare un check-up completo e benimente. No, funzionano veramente bene, sono contento. E l'unica cosa mi manca, proprio per essere completo, un imbriato di ricevitori HF, e io sono completo di tutto, a voglia, ce n'è per i maiali, ce n'è. Vabbè, quello lì piano piano già si riesce a trovare. Ma è importante vendere quello. No, ma mia non è base, il mio veicolare c'è a molti più canali di quello lì, di quello base. È un semicontinuo, non è a bande, capito? Parte da 25 a 32 MHz, proprio sul frequentimetro, girando sempre la manopola come un HF. È una vecchia serie che avevano fatto del 96-97. Veicolare c'ha 15 watt in AM e 25 in banda laterale, ma molto bene, non ne ha di bande, c'è proprio solo che sacco di cose, un sacco di funzioni, capito? No, già va bene, non c'è da allineare niente, inizia a cambiare questo, non so cos'è partito, se è una qualche resistenza del modulatore, qualche transito, non so, qualche diodo, non conta la portante, quindi sicuramente ho diodo, transito, resistenza, siamo lì. Finché quelli non parte, non conta la trasmissione, perché sicuramente si è bruciato qualcosa. Oppure se che un falso contatto è come era sempre fermo, antomenoso, devo farlo controllare. Vabbè, ecco, giustamente toccate a valutare. Io ho fatto un po' di giri lì su internet, ne ho visto dei ricevitori, ma che partivano da 100, 150 euro, poi 200 e così via. Con 150 euro garantito, purtroppo venduto, era tutto manuale, diciamo di elettronica non aveva niente. Aveva due manopole, una sistemava una frequente, una l'altra, e dovevi tutti e due combaciarle con due manopole, diciamo, per il cercacanali, e poi un'altra più piccola per aiutarti a girarla, e dunque dovevi combaciare queste due ricerche. In poche parole, i canali erano scritti, ti posso dire, in un rullo con diverse tacchette che ho le frequenze, abbastanza vecchiotto ma funzionante al 100%. Non mi ricordo neanche che marca era, una marca formata in Germania, non so, Telefunke, non so, una roba del genere. Sempre ricevitori in HF con bande laterali, veramente bello, guarda, alimentato all'interno col suo trasformatore, veramente carino, neanche un graffio aveva, 150 euro veniva venduto, dico, veramente bello, abbastanza, ci vedeva retro come modello, purtroppo venduto. No, ce ne sono tanti, solo che a volte troppo la garanzia, che garanzia c'hai, quello è, come dicono, aspetta, come c'è scritto su internet, visto e visto ma senza garanzia, tutto lì. Cioè ce ne sono tanti, però non sai cosa acquistare, ma sono di ultimi prezzi, da 100 euro in su partono. E anche dei Kenwood, ho visto come hai detto, Kenwood AOR 3000, veramente carino come apparato, lo stesso, è venduto anche quello, l'ho beccato a 150 euro. Allora, le 3000 è una bella radio, io l'ho avuto l'AOR 3000 e l'FRG 9006. Sono dei bei ricevitori, non sono grandi, però hanno tutto, capito? Già si trova, non c'è problema. Piano piano vedrai che già trovi tutto anche tu. Ok. Sembra che si sia rimesso a posto il tempo. Non c'è molto caldo, La temperatura è ancora un po' freddina, però penso che questa settimana si metta a posto. Speriamo, sì, c'è il sole, c'è un po' di vento, ma sai, non è male come giornata. Comunque iniziamo già da oggi a cambiare un po' la temperatura. Poi ho guardato lì il giornale stamattina, ma non c'è niente, nessun evento, qualche piccola festa, qualche intrattenimento per fare una passeggiata con la famiglia, è tutto morto. No, non c'è niente oggi, ma qua Sassari. Non so che cosa c'è, io ho fatto il giro da Sedri, quindi ho fatto tutta la panoramica di Castelsardo, così da Platamona, c'è un po' di gente correndo a piedi, gente in pinetta, ho visto stavano organizzando qualcosa lì alla rotonda, non so, c'è sicuramente un po' di traffico, già c'è, però ti ripeto, non è la bella giornata proprio primaverile, è un po' freddina, infatti c'è il mare un po' mosso. Però in linea di massima non piove, quindi la gente esce, magari un magliettino sulle spalle, una cosa, un giubbottino leggero, la gente esce. Ma anche quei giorni, minchia, va. Non si poteva trattare, è una rottura di scatole che non ti dico. Eccolo Gerber, infatti mi dopo pranzo con mia figlia mi organizzo e ci facciamo una passeggiata in campagna, già fa bene, un po' di chilometri così là. Ti faccio granchire un po' le ossa mia figlia, che non è tanto vogliosa a camminare, dopo pranzo una fare un'oretta di passeggiata, 2 o 3 chilometri faccio fare, andata e altri 3 ritorno, così quando rientra si addormenta e si riposa un po', poi rientra il prossimo mese, che con la scusa ci sono le vacanze, ne approfittano sempre queste maestre, porca miseria, infatti che sia una festa ci fanno sempre una settimana di riposo e dunque tocca farla muovere ora. Praticamente adesso cos'è? Ancora ferie pasquali? No. No, con la scusa, dal 25 aprile e allora adesso le fanno rientrare il 2 del prossimo mese. Poi, adesso mi ricordo che il primo giustamente è festa, e dunque da oggi, dal 25 sino al prossimo mese, si hanno tirato una settimana di vacanza, capito? Infatti che ci sia una fetta di mezzo e loro ne approfittano subito, guarda, per carità. Stanno più a casa che a scuola. Ma è così, non è che purtroppo ci sono le vacanze di mezzo, entro settimanali, capito? Ne approfittano, oggi è mercoledì, quindi domani è giovedì, non è che fanno giovedì e venerdì e sabato mattina a scuola, no, fanno tutta la settimana per intero, non è più come quando eravamo a scuola noi, no? È un casino, infatti, e poi si vede l'ignoranza delle persone, che sono poi si vede sono anche abbandonate, non c'è più un'istruzione come prima, no? Assolutamente. Fanno le cose basilari, sì, stanno tutto bene, poi quando rientra a casa la mette a fare i compiti, per carità, questi figli non sanno ancora neanche le tabelline. Ho fatto un colloquio con la maestra e secondo loro è normale, è una cosa normale, ci vuole tempo, e Dio mio, ci vuole tempo. In quarta elementare ancora molti non sanno le tabelline dalla tabellina dal 6 sino al 10, dai, non è possibile. Dunque, giustamente non la puoi lasciare così, te la metti sotto e fai anche tu da maestro, poi alla fine ci pensi, ma cosa la mandi a scuola a fare? Quando se ne fregano altamente, no, non è più come prima, Ma infatti, perché c'è un po' di malefreghismo, nel senso che non me la futti nulla, capito? Non me ne frega assolutamente niente che uno sia avanti e indietro, nulla, pensano loro. E infatti, già cerco di avere un futuro in domani, ci provo giustamente come tutti i genitori, speriamo che non faccia il lavoro di lavascale, che si prenda almeno un titolo di studio e si decida a intraprendere qualcosa per andare avanti, se no guai, se li abbandoni, guarda, questa nuova generazione, proprio futuro zero, già abbiamo difficoltà a noi, immaginati i figli di adesso, no, bisogna andarsi da fare giustamente, per fare il dovere di padre, la cosa più giusta. Io so. Difficile fare anche quello al mondo d'oggi, penso che sia facile, quindi dobbiamo stare molto attenti, cercare di combinare un po' bene le cose, altrimenti è un casino, ma non c'è nessuno oggi, noi io sono passato per 13 verso le 11, ma non c'è nessuno, stavo rientrando, ho preso il giornale, il caffè, le sigarette, ma sono rientrato a casa intanto, grazie a fare in giro, stasera vediamo. Se continua così, magari anch'io mi faccio un giretto verso Alghero, produttore, no? E se non mai sto a casa a riposo. Ah, ho sentito Leoncino che era lì in quella zona, poi non mi ricordo chi c'era, e poi è sparito nel nulla. E c'è passato lui, mi sa che non ha trovato nessuno. No, sicuramente sono tutti a nanna, o in ascolto, non hanno voglia di parlare. Più di movimento. Non ho capito chi è che vuole entrare. Mi lasciano malissimo, molto molto male, non ho capito chi sei. Sono Gianni, ma anche io lo sento veramente male. Il segnale c'è, ma è un bel salto, neanche troppo. Non c'è antenna, Clarice. Gianni, non c'è antenna, ma Gianni chi? Ciao. Ciao, no, non ti capisco. non c'è antenna, non ho capito come fare a parlare senza antenna. Non so, non ho capito chi è con un cartone. E non riusciamo a capirti, no? Persone ha detto qua, ciao. Ciao Alfredo. Ci voleva molto a dire già di dove sono, la mazza che tiene in aria. Ciao già. Ti sento molto male. Metti l'antenna piccolina per il baracchino. E quindi fai due chiacchiere anche tu con noi. Ciao Giulio, buongiorno. Ciao Claudio, no, scusate ma non posso prendere. Ho solo intervenuto solo perché avevo capito bene cosa aveva detto l'amico Gianni. Sto lavorando già, non posso mollare purtroppo, dai, ci sentiamo eventualmente stasera. Ciao ciao. Ciao Antonio, ci sentiamo, riprendi qua. Giulio, dimmi sì o no, poi ti lascio. Quella vernice che ho mangiato per le finestre, posso caldeggiare quella radio in legno di Mario Mao e dare una passata di quella, non le fa niente, no? No, no, non le fa niente, non le fa niente, va benissimo. Dai una prima mano, la fai scivolare 24 ore, una leggerissima levigata, ma quasi niente, sai quando vuol dire quasi niente. E poi la seconda mano, e si attacca. Ok, ok, grazie Giù. Lo voglio sistemare un po', non l'ho messo male, ma comunque lo voglio dare una sistemativa. Avanti Antonio, per i saluti a Giulio. Ciao Giù, buongiorno e ben sentito, buon proseguimento, stai lavoricchiando. Va benissimo, ben sentito. No, anche io lo sento male. Comunque, io stavo parlando con uno di Sorso, adesso non mi ricordo il nominativo, comunque Vicky CP, sono contento e qualcuno sta riprendendo, piano piano si sta allargando la situazione. Quello non muore mai, quello è il sindaco di Sorso, capito? Quello non muore mai. Falcone era vicioso, però non muore mai, sempre in agguato, sempre in ascolto, è lui. Anche adesso c'è me, capito? Anche adesso. Lui le piace ascoltare Ciaramenti, capito? E poi al momento opportuno entra, è proprio un falconero, capito? C'è Falchetto, lui è falconero, sono colleghi, insomma. Ah, ecco, lei andiamo bene. Avanti l'amico di Luna e Sole. Ciao, comunque mi stai arrivando qua 9+15 con il preamplificatore spento. No, mi sta arrivando bene come segnale, è che è abbastanza sano. Va bene, dice che col di polo là non può parlare perché sennò brucia l'apparato. Il mio collega è arrivatore, abita attaccato a me, la fondo scala qua. E poi ecco perché non lo capisco di radio, capito? Il mio collega è arrivatore, Gianni di Luna e Sole. Vecchio CB8 come me, vecchio CB anche lui. C'aveva l'antenna per la 27 e poi nella tolta per fare spazio alle altre, capito? Abita qua vicino a me. Siamo in linea d'aria 200 metri. Ecco perché è talmente forte che non riesco a capirlo, capito tanto me. Ciao Gianni, procurati qualche antenna piccolina e così ti fai due chiacchiere anche tu con noi. Mi fa sempre piacere, visto che le altre frequenze mi sembrano un po' morte. Ci stiamo catapultando tutti qua nella 27 di nuovo. Meglio così, sono contento. La vittoria a me. Gari S. Adesso vediamo. Anch'io provo a fare un po' di lavoretti, boh. Sto aspettando che mi entri un po' di studio anche a me perché ho avuto un sacco di spese. E poi Giulio mi completa questa stanza come avevamo progettato, ci manca l'altro pezzo. Deve andare via questo armadio da qua e mi serve un altro piano per fare i lavoretti, perché non c'ho più posto, capito? E cosa intende di fare qualche altro acquisto? Che acquisto come? C'ho un radio per terra, che acquisto lo fare? C'ho un radio per terra, capito? Ho preso un sacco di radio, di baracchini base, sono tutti funzionanti, tutti accesi, non ho più posto di niente, c'ho 20 microfoni da tavolo, capito? Però, come mi ha detto Giulio, c'è da fare l'altro petto per dove c'è. Catania, che insomma era a 5,40 m, quindi non è che era tutta piena completamente, tutta proprio, non c'è spazio più di niente. Già me lo ricordo, poi io sto lavorando invece in un ripiano da neanche un metro, già è tutto ben assentato. Devo farti una domanda, io ho una curiosità, ma c'è la possibilità di dare l'esame solamente per intraprendere, diciamo, la modulazione in alfabeto Morse, o devi per forza avere quella completa per radioamatore? Adesso sono unificate le patenti, prima si poteva fare darvi solo la telegrafia e poi quando ne avevi voglia darvi la teoria. Adesso sono unificate, capito? Devi darne una e automaticamente ti viene concessa anche l'altra, quindi non ti conviene. Ti dai uno sguardo un po' generale alle normative, un po' alle cose che più o meno stanno mettendo in atto, vai e dai gli esami completi, poi se non passi la prima passi la seconda, non c'è problema, la terza, la quarta, se ti piace fallo, perché è un mondo completamente diverso da questo, però è bello anche stare qua. Io faccio una e l'altra e ti dico che parlare qua è uno spasso, capito? Parli come mangi, ti diverti, eccetera, eccetera, là è tutta roba scritta, tutto deve essere perfettino, deve fare qui, deve fare là, a volte mi viene anche la noia. Ecco, avanti, buongiorno. Buongiorno e buon mercoledì, dai, Bulldozer Massimo qua, in ascolto, ciao Claudio, ciao Antonello. Buongiorno anche a te, buon mercoledì, buon 25 aprile, così si dice. Te ne stai alzando, sento la voce, bello pimpante, invece io sono già stanco. Sono uscito 2:30, sono tornato alle 11:30. Mi sono messo il mio pigiamino, bello, pulito, profumato, e sono seduto qua. A me questa stanza mi rilassa, così. E allora, tutto chiuso, finestra aperta, e aspettiamo l'ora del pranzo. Avanti, Antonio. No, la verità, mi sarebbe piaciuto se era possibile dare solamente l'esame per la telegrafia. Perché no? Impari qualcosa di nuovo, anche quello che fa parte della radio. Sarebbe bello se sempre se c'è la possibilità solamente di dare quell'esame specifico per la telegrafia. Adesso provo a chiedere, vedo un po' cosa ne esce fuori. Sarebbe bello, no, perché il Galaxy ce l'ha, diciamo, la particolarità di collegare dietro e ne comunichi così. Qualcosa in più da imparare, capito? Non è male, dovrebbe essere abbastanza interessante. Sì, è interessante, ma anche la telegrafia sta sparendo, i vecchi la stanno mettendo in atto, Antonio. È un'altra cosa da trasmettere. Prima i vecchi radiamatori, qualcuno c'è ancora, anche qualche radiamatore giovane, come uno nuovo che c'è, che mi pare che abiti a Carceghe. Che è il figlio di quel nuovo doppio, quello di Chiaramonti. Giancarlo va molto in telegrafia, fa solo esplicitamente telegrafia, ma è una passione e quindi la fa. Ma se io mi dovessi mettere a fare telegrafia, ci vuole, la so fare, ma molto molto molto piano, proprio dico molto e sottolineo molto, perché è da tanti anni che non la faccio e quindi devo riprendere bene la mano. C'ho il tasto qua, vedi? Ce l'ho qua al tasto, però non mi ci metto quasi mai, qualche volta l'attacco, giusto così, metto le cuffie per faccio due tronzatine, ma quando trovi quello che parla veramente telegrafia, tu devi starla presso, devi decifrare, devi scrivere, altrimenti non ci capisci una minchia. Massimiliano Bulldozer, cosa ci racconti? Niente. Che non mi sto alzando adesso, ma io sono dalle 8:10 insieme a Gigi, mi sto rientrando adesso. Cosa siete andati a tagliare l'erba a mungere alle 8:10? No, niente, ci abbiamo preso il caffè, abbiamo fatto una chiacchierata, poi siamo andati da lui in garage. In garage abbiamo controllato quelle antenne, comunque quella lì è uguale a Pinuccetto, quella che ti stavo parlando. L'altra fa da 49.500. Da 49.500 euro sono numeri che non mi dicono niente. Ma quindi c'è scritto frequenza 49.500 e poi blu. Quindi quella è un'antenna per i 43 mega. Un'antenna per i 43 mega oppure può essere un'antenna per i 6 metri, 50 mega. Se è un'antenna per i 50 mega non la toccare, non la dare a nessuno perché quella è la mia. Se è una verticale per i 6 metri, perché io per i 6 metri ci ho il dipolo. Capito? Se è per i 6 metri, devo vederla perché io la conosco le antenne. Se poi quell'altra è uguale a quella più oggetto, tienitela conto, ma tienitela conto davvero però, perché quella è un'antenna che schicchia forte, antenne come la PLC800 o la PLC1000, se le mangia, capito? Perché ho fatto le prove, la voce l'avevo nell'Audi, a fianco ad altre persone, a parità di potenza, me li mangiavo nudi e crudi anche come ricezione, perché è una favola con l'antenna. Poi io volevo più oggetto, ma parte da Sassari, perlomeno io, e Fabiaco l'accompagniamo sino a Buduso, senza nessun problema. Va veramente molto bene, quindi bene di racconto. L'altra, lasciala stare, sabato quando ci vediamo, me la fai vedere. Se quella che dico io, la verticale per i 6 metri, quella era mia. È positivo, positivo. Poi gliel'ho fatto vedere un'altra che la c'è scritto BL27G, mi sembra, o HG, e ce ne sono una o due di quelle lì, non lo so. E poi ce n'è un'altra che è alta 6 metri e mezzo a tre radiali, tipo la Mantova è fatta, no? Capito? Bella, bella, già ce ne sono, già te la faccio vedere. Alta 6 metri e mezzo, ma in alluminio o le fibre di vetro? Tutto in alluminio è fatta che si allunga tipo a canna da pesca, capito? Tipo a canna da pesca con tre radiali che saranno forse 50 o 60 centimetri, ce ne vanno tre, capito? Quella della 27 dovrebbe essere tipo la BA27L, tipo. Ma comunque io qualche altra antenna devo montarla. Se quella che c'è scritto 49.500 mega, quella dovrebbe essere per i 6 metri, quella per i 6 metri sicuramente, ma conosco perché quella dei 6 metri c'ha la carica del tubo, così è quella. Sì, c'ha la carica nello stilo centrale. E poi sicuramente ci avrà anche un'altra carica sotto nella base dove attacca il tubo, credo. Sì, dovrebbe essere per i 6 metri, non lo dà nessuno quella che serve a me, capito? Poi l'altra, vediamo se c'è qualcuno che vuole antenne, anziché comprarle da fuori, se sono quelle tipo BA27L vanno molto bene, a qualcuno serve. Non c'è problema. Per macchina non c'è niente? No, per macchina niente, c'ho solo quella lì, c'ho solo quella frusta che c'ha il cimino che te l'ho detto che sicuramente è rotto, ma è da vedere là. Non è rotto il cimino, lì l'hanno tagliato per fare la correttura, non gli hanno messo il tappo, già te l'ho io il tappo. Ce li ho quei tappi io per quelle antenne, non c'è problema. Si misura con l'osmetro, si attacca, lo stilo lo puoi mettere anche nella macchina di Luigi e fare la tarattuna alla macchina di Luigi, perché quella che c'ha Luigi l'attacco dovrebbe essere uguale a quello stilo, giusto? Non te lo so dire questo qua, questo non te lo so dire, perché io non l'ho mai vista, no, il cimino, in poche parole, la punta dell'antenna tutto il tappino, dentro c'è tipo un affarino cromato, dorato, in rame, che tu gli avvitti questo pirulino, però un pochino più giù, sicuramente è spezzato, perché è molle molle la punta, capito? No, non è quanto la giuncetta, mentre quella del giuncetto non ha nessun pirulino, è un tubo rigido, capito? Proprio un tubo rigido, tu prendi un tubicino di rame da un e mezzo e lo rivesti con questa trosolante, per dirlo fare, quella è una guaina, un tubo rigido ricoperto da questa guaina. Vuoto, ok? Sopra c'è questo tappino, che sono tipo quei tappini che si mettono nelle sedie per non fare rumore, così. Tipo un terminale di un'antenna per macchina, ma fare così, un pochino più grosso. Tutto lì col tappino, scende stazionare, prendi il seghettino e tagli la fai a misura giusta e poi rimetti il tappino. Non c'è niente, non c'è niente rullini da affittare, da fare, non è come quella di Lucetto, quella di Lucetto è diversa sicuramente, sembra uguale ma non è uguale. Quella di Lucetto è un tubo rigido, in rame, attaccato a questa molla e basta, non c'è altro. Introvabile. Ti sto dicendo, Cla, che gliel'ho fatto vedere a Luigi, cazzo Luigi vuole il Pinocchetto, già la conosce, sì. Mi ha detto che è precisa identica, uguale. Luigi può dire quello che vuole, per te il Pinocchetto era la mia, io ti dico che quella, come me la stai descrivendo tu, che sopra la vita, quella del Pinocchetto non ha vita, niente, nulla. Nulla, perché era la mia, l'ho staccata dalla mia macchina. In garage da Luigi, perché l'ha vista, ma che lui sa mi fare, io sono il viaggetto e me ne sono andato settantenna e l'ho comprata io alla fiera di Milano in un box della fiera di Milano da un radionatore che aveva 75 anni, ok, e aveva un box di alla fiera di Milano di roba tutta di vecchia generazione, dico di vecchia quarantena, c'è un certo minimo, non si chiama neanche frutta nera. Non si chiama frutta nera, perché la frutta nera è flette. Quella di Pinocchetto, ti sto dicendo, è un tubo rigido che non flette se non dalla molla, ok? Se non dalla molla, è un tubo rigido, completamente rigido, perché era la mia, lo so, l'ho tagliata io e l'ho cordata nella mia macchina, col seghetto proprio, una passatina di seghetto sopra e l'ho rimesso il tappo, perché aveva ogni 5 stazionali con lineare, allora l'ho passato di un centimetro la punta, proprio come quando stai tagliando un tubo di rame per fare un bagno, la stessa cosa, è un tubo di rame di gomodo, di tubazione di bagno quella, rivestita con questa pellicola in gomma. Guarda, se la vedo, lui ci può dire quello che vuole, però siccome la tenere la mia, secondo me non è uguale, non si chiama frutta vera quella che ha Pinuccio, è lui che gli ha messo frutta nera, ma c'è un altro nome, è della Sirtel, tra l'altro la macchina me la ricordo, la Sirtel, e aveva un nome particolare che adesso non mi ricordo. Comunque, se quella riflette e le molle sopra, non è uguale a quella di Pinocchetto, perché quella di Pinocchetto non flette manco se ti ammazzi, non la pieghi, è un tubo di rame da un centimetro, da un e mezzo, capito? Se non da due e mezzo, pure adesso non mi ricordo. Chi è che ha detto introvabile? Martino, una volta, chi è che ha detto introvabile? Io sono il padrone dell'antenna. Poi che non c'è l'antenna Massimiliano, intende? Ma chi è che ha detto Luigi che vuole la tua? Fagliela vedere Massimiliano, le porta che la metti loro quanto invece vuole la tua. Non lo so, io non ne ho trovate in nessun posto. Che non ce ne sono cose vecchie di vecchi magazzini degli anni 80, guarda, minimo quarantena degli anni 80, 85, 90. Quindi immaginati tu di che risultato bellico. Ok, comunque faccio girare, Antonello, riprendi tu, fai entrare, mi pare c'è stato un break. Ciao Pinucce, buongiorno, da Barracuda, avanti il brecco. Ciao Claudio, ciao Barracuda, ciao Pinucce, ciao Massimiliano, buonasera a tutti. volevo sentire come mi stavate ascoltando, cambio. Riprendo io, là, ti ascolto bene Gianluca, là, segnale di 7, radio 5, perfetta. Ciao Pilucetto, anche a te ben entrato, io vi devo lasciare che scendo a accendere il fuoco, a cucinare qualcosa, là. Anche questa, là, non la pieghi la, il tubo, è rigido alla molla, se non che piega solo dopo è alla molla. In alto c'ha il tappino cromato per chiudere questo tubo, basta, non c'è altro. Che cosa differenza, quello che c'è, non è un tappino cromato per chiudere il tubo non chiude da nessuna parte, c'è un tappino di gomma che si mette sopra per non riempirsi l'antenna d'acqua, appunto, capito? Comunque lo vediamo assieme, non ti preoccupare che sono sicuro che non è uguale a quella che non c'è, comunque sicuramente sarà una buona antenna, niente in particolare. Ok, ciao Gianluca, ciao Massimiliano, buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo se coincide stasera. Ciao Gianluca, io ti ascolto bene di segnale, ma sei basso del radio, devo sollevare il volume. Sì, già. Allora, aspetta, come mi ascolto anche qua. Un po' basso del radio sono? Vediamo un pochettino com'era qua. Vediamo. Ecco qua. Vediamo un pochettino Claudio. Hola, hola. Prova a vedere adesso com'è la radio Claudio. Sta migliorando ma no. Sento rumore di MC60. K di Roger, bravo. Dammi una dritta, come sono i tasti che ci sono su? Come vuole mettere, come deve essere messo? Che radio stai usando con MC60? Per darti una dritta devo sapere che radio stai usando prima. 140. 140, così diretto. Cappa. Un po' chiuso mi sembra. Allora metti il trattino sopra, quel trattino piccolino, mettilo sopra, 50. Perfetto. Sotto, guarda se il MC60, scusa, torna un secondo. Se il MC60 è in posizione in o out. Adesso l'ho messo in in. Non spinge proprio niente. A quanto ce l'hai Mickey Gain? Adesso l'ho messo a massimo. Ok, uno due tre prova. L'ho messo a massimo, però non so se devo aumentare un pochettino così, per fare l'acqua, non è vero? Ok, watt, metti tra il culo la mano dei watt, Gianlu. Lascialo stare com'era. Allora aspetta che abbasso un pochettino, ecco. No, così hai abbassato troppo, rimettilo com'era. Allora devi tenere conto di una cosa, il 140 lavora in una maniera diversa dal 440, dal 430, tu gli trovi la testa che è la modulazione di Giampaolo, perché te la scordi, se non è toccato da me, nel senso che non è che mi voglio vantare, però il 140 è due conversioni, mentre il 430 è quattro conversioni, come il 440. Allora, essendo una modulata da due conversioni, cosa succede? Che se non apri la LG, hai picchi di modulazione. I watt devono rimanere a 20, 30 di portante, quindi per darti una dritta devi mettere il power a 20 watt. Dove c'è scritto power? La lancetta a 20 watt. Devi fischiare, devi dirmi che picco di modulazione c'hai. Poi ti dico se è aperta o non è aperta. Scusate un attimo, faccio un attimo di bianco, là, continuate. Andiamo, ok? E via. Abbiamo messo il pochettino, sono stato di là. Sta 40 da 20 a 40 che sono se giusto il rosmetro mio sì è claro però bisogna vedere allora dopo c'ho la LC power inserito processo inserito power inserito processore inserito vabbè se c'è il processore inserito mai che guarda io sul comodo la radio questa è l'850 no? Per farti capire adesso io uso il 140 va bene questa è l'850 guarda. parecchio adesso qua, eh. Sì, ma la senti la spinta del 140? Allora io l'ho appena acceso, guarda. Sono 20 watt e i picchi di modulazione sono a 100. Questo fanno un rosso, ma tu l'hai fatto, dai, tu l'hai fatto, Claudio. È tuo? Ehi, non c'è tuo, non ci sono problemi. Ci deve fare. Io ti posso dare una dritta, ok? Adesso tu apri il coperchio di quella radio sopra, ci siamo. Quando l'hai aperto, te lo metti davanti e mi dici che sei pronto. Da dare una bella pulita, così poi l'ho levato il tappo di sopra. Qua lo so che metto qua, si apre come il libro. Adesso ce l'ha aperto, però c'è sempre quel pannello, non so se devo operare proprio sulla parte di fronte a te, oppure se devi levare anche quella protezione, la mia, che c'è sopra lo sportello che apri. Quello non è il problema, quello si apre al libro, non si stacca quello dove c'è il dissipatore finale. Quello si apre al libro, ma non devi toccare niente. Vai dalla parte degli slider, ci sei, c'hai una, due, tre, quattro slider. Nello slider di sopra, nel primo, dove c'è scritto power, lo vedi? Aspetta, la verità non è stata abituata, la verità non è stata. Allora, driver, penso di dire sui riquadri. Tu i potenziometri, perché tu chiami potenziometri, si chiamano driver, che sono dove tu tocchi la potenza, dove tocchi il mic gain, dove tocchi le mid level, dove tocchi quelle cose lì, ok? Allora, ce l'hai aperto, mi hai detto, giusto? Perfetto. Se tu guardi all'interno della radio, proprio dietro, dove c'è il primo slider in alto, dietro la radio, stando attento, proprio attaccato al frontalino, c'è un trimerino di colore giallo-arancione. Allora, giallo, frutto e arancione, no, sono bianchi questi qua. Sotto questo è una delle prime serie, io qua. Non c'entra niente, può essere anche della prima serie. Lascia stare nella piastra del coro. Ti sto dicendo, attaccato al frontalino, attaccato al frontale della radio. Dietro il primo slider in alto, ok? Praticamente dove c'è il coso box, dietro lì, dietro però, dietro la radio, stai attento, entra il gabbo, si vede, c'è uno slider di colore arancione, giallo. Me la vedere a scheda io, non in futuro la bagata regola la cosa. Sì, arancione, ci sono finotto anche il blu, con un coso bianco. Sì. Cappella, arancione. Un trimerino, arancione. Allora, devi dire se è tutto chiuso o tutto aperto. Non devi toccare niente, devi toccare solo il trimerino, il cacciavettino induttivo, oppure un cacciavettino che entra giusto, devi dire se è girato verso sinistra o se è girato tutto verso destra quel trimerino. Guarda che intanto quel trimerino te ne accorgi perché c'è una lettina, una letta. Se tu dici, no, tu non stai toccando quello che facevo io. Guarda che dietro dove c'hai il tastino Vox, proprio lì dietro il frontalino grigio, c'è un trimerino che è arancione e c'è una piastrina piccolina in ferro, capito? No, vai da altre cose, vai da giurisciu. Ma lo vedi di fronte, cioè praticamente lo vedi da sopra, non da sotto, no? Non da sotto di quelli di sotto, no? Da sopra, si vede da sopra, devi entrare il cacciavettino da sopra, non devi fare nulla, entrare il cacciavettino e girare quel trimerino. Mi devi dire se è tutto a sinistra è chiuso, se è tutto già a destra è già aperto. Ma se lo dico, ho capito bene, mi sta mettendo. No, Cibre, non ho fatto niente, non ho fatto assolutamente niente. Se tu quello lo chiudi, non esci in radio, ok? Non esci in radio. Se invece è tutto aperto, c'è qualcosa che non sta andando, cioè nel senso che non sta spingendo proprio, senti col microfono normale, quindi tu non stai toccando il trimmer che ti facendo io, vorrei un trimmerino proprio piccolo, piccolo, arancione, rimane molto attaccato al frontalino, all'altezza dove c'hai Vox Power, proprio lì, all'angolo lì. Ho aperto il coso con le cerniere. Ma tu hai riusciti? No, no, già vedo bene, si riesce a leggere tutto qui. Allora, guarda, proprio davanti a te c'è un trimmer bianco, ok? C'è scritto, perché c'è scritto, leggi, car power, ci sei? Allora, qui ne vedo uno, c'è scritto mini power, mini power, dopo c'è, a fianco c'è quello del disco, VR23 disco. No, no, no, no, non c'è scritto mini power, c'è scritto car. Proprio davanti a me proprio? Sì, lì, sempre in direzione di quella posizione che c'è fatto io del primerino. Aspetta, me lo trovo a destra invece, questo qua. VLR car, sì, che vuol dire potenza calibrazione, ok? Ce l'hai davanti? Ecco, e a fianco c'è carval, il car bilanciamento, ok? Ecco, però io me le ritrovo non nella posizione dritta, diciamo, dove mi ha fatto aumentare quel dreamer lì, me lo trovo praticamente dalla destra, praticamente in direzione dove ci sono i tasti down out, ecco, dritto di lì me lo trovo, capito? Questi due che ti sto dicendo. Scusate, baracchino. Adesso usiamo anche il baracchino, non c'è problema. Allora, sul car quello non quello del bilanciamento, l'altro car level, aumentalo appena, ma guarda che è molto sensibile, un pelino, guarda se ti sale la potenza dallo strumento della radio. Dove c'è scritto car cal? Sì, vuol dire potenza calibrazione quella, l'altro lascialo stare. Sì. Senta, l'ho rimesso come la prima però. Sì, aumenta tra. Claudio. Via, aspetta, Gianno, non tocca a nulla. Dimmi Massimiliano. Hai detto un attimo che mi ha mazzene, è preso la voce tua e Pignetti che ti vuoi salutare. Io. Ciao. Io, chi è lui? Ah? Viola. Ciao Gaia, perché stai piangendo? Ma lo sai che Salvieri è sempre qua in radio? Mi dice la babba, ho comprato il baracchino. Allucinante, va. E lo fai un'altra cosa, t'ha inteso, fa vitendi. Lo voglio salutare, si è messo a piangere. Che è fa bene, non la salutare, va bene. È salutato, io, ciao. Ciao Gaia, un bacio grande, non piangere. Quando vuoi venire qua, di da babba a portarti, io ti faccio ballare io alla radio, dove trovare un casino della Madonna. E qua fagli le caramelle. Su, grazie, va bene, va. Riprendete. Ehi, ciao Massimiliano. Allora, Gianlu. Voglio ciao anche a Popone. Avanti. Allora, a quanto ce l'hai adesso la potenza normale? Dimmi a quanto ce l'hai. Power nel frontalino. Mi piace. Vedete qua? Quasi a 20 se segna bene. Si sta segnando bene, qualche scatto già si farà. Però ce l'ho praticamente, la levetta, per farti capire bene, la levetta è quella esterna, quella che c'è nel frontalino, e nella P, dove c'è scritto power, risulta nella P. Perfetto, e ce l'hai a 20. Adesso, senza toccare lo slider del power, portalo a 40 watt in quello strumento che c'è tu, quindi prima del 50, nella lineettina prima del 50 portalo, poi ti faccio fare un'altra cosa. Ma da dove lo devo muovere io? Dall'esterno? No, non toccare lo slider esterno, interno, dove c'è scritto car level, quello lì, ok? Quello lì lo muovi appena, tipo di watt a 40 watt di portante nuca, e mi dici quanto sale poi quando parli. Ah, allora aspetta. No, Ma via Massimo. Aspetta, eh. Deve salire per andare sulla V. E ce l'hai a 40 watt, mettilo a 50 spaccato adesso e dimmi picchi di modulazione se salgono a 100 e si è arrivato. Aspetta, dall'esterno lo devo mettere a 50, eh? 45 qua mi segna, quasi 100. Poi sì, a metà e metà. Questa è la regolazione della potenza dei picchi di modulazione. Adesso c'è l'apertura dell'LC per avere un po' più di spinta perché è troppo chiusa, però quella è una cosa che fare così alla radio, Gianluca, è un po' difficilino, quindi io ti consiglio per il momento di tenerla così. La radio è già migliorato con lo slider che gli hai aperto all'interno, quello praticamente del Michelin. Per fare quell'altra apparatura non è un problema, trovi in macchina, sali qua, te lo faccio davanti perché bisogna attaccare il carico fittizio, bisogna fare un lavorettino e te lo porti via direttamente. Ah, sì, grazie. A me mi sale a 9 tra quando lo strumento, se 9. E dopo va più che 9.20 qua, nello Zwicker. Ci siamo, è come il mio, guarda. Io adesso ho, praticamente, guardando a Smitter, ho la lancetta della portante muta a Santiago 9. Quando modulo va a 9.20, 9.25, ok? Quindi sta quasi per toccare il 100. Questa è la regolazione ufficiale di quella radio. Adesso c'è un po' da fare la spinta della modulazione, e poi si è a posto. Comunque, come fate, lasciala così, perché se lo aumenti ancora, siccome quella radio più scalda e più se ne va ad aumentare, allora tu devi stare attento. Quando la radio è bella calda, ti fai la taratura col power esterno, no? Con lo slider esterno, e te la tari a caldo, in modo che quando tu l'accendi non mi tocca più nulla. Quando riscalda se ne va a 50 watt di portante, 100 modulati. Ma per scaldare basta fare 2-3 passaggi. Adesso sì, Santiago 9, con picchi a 9 più 10 quasi. Mentre poco fa ce li avevi in negativo, adesso ce li hai in positivo. Allora io posso anche dare una pulitina perché non vorrei aver visto le condizioni come te. Vorresti... dei lavori, diciamo così, del mio genere, era ripristinare un po' i tassi, quella roba lì, di dover smontarli, andare a mio compare, fammi dare il tubulore, rispondo, ma lo voglio rendere presentabile, però prima volevo vedere che funzionava bene, perché se no non pudì un una cosa in mano così, non ho visto, là. Adesso sì, perfetto, quando l'hai acceso come ho fatto copriva il QRM, fece lì 20 watt di portante, massimo 40 modulati perché non era aperto. Questa adesso si è a posto, hai da 50 a 100 modulati come la mia, bisogna a fare un po' di apertura di elici, quindi un po' bellissima radio, guarda, per usarla qua è eccezionale, per me io la chiamo baracchino sintonia continua, io uso sempre questa, a volte cambio, a volte 50, però non ho niente da, non c'è niente, capito, non c'è niente, l'unica radio per dare fastidio al 140 mm al 430, quello è una bestia, ma neanche il 440, guarda, perché io ce li ho e quindi ti posso dire per certezza che il 140 con una modulazione molto più bella del 440. Il 430 invece c'è la vita che c'è Giampaolo, quella è una bestiolina sia come fatte che come radio, quella che ho fatto io Giampaolo, va veramente molto molto bene, mi però c'è voluta una resistenza sulla parte del modulatore per farlo uscire così, mentre questi non ne hanno bisogno assolutamente, si fa una apparatura più o meno così come abbiamo fatto adesso e la radio va bene. Cosa c'è bambino? Cosa c'è? Come mai non sei in HF a fare collegamenti con i tuoi soci? Veramente ti ho sentito a te ieri che stavi sbraitando, non mi intendi, ti stai trascurando le VHF, in macchina ti sentiva più forte, magando mai, grave, niente, sto scendendo l'altro riccio. Perché? Perché io sto facendo, diciamo, il sollevamento di perso. Perché quello che c'era non mi piaceva, quindi ho messo le ruote su, nuove, tutte in acciaio, però ho fatto il lavoro, capito? Prima invece era zingato, le carrucole largano, questa roba qui però largano, me lo porto domani al lavoro e me lo faccio giù. Insomma, l'ho cambiato di posizione e vai, dai, non ha giovato, mi sei troppo. Sì, io mi dispiace, ma non ne faccio concorrenza ai furti, perché poi seguo in tecla, non è mia competenza. A me piace divertirmi e fa casino anche qua. 525, la battaglia chiama. Ah, beh. vabbè, va. Fatti bagà con tutta questa costruzione che stai dando. Sì, no, ma è quella radio, non le scatole piene, bambini. Ce l'ho, guarda, dal 1990 io 140, ne avrò avuto sotto mano, se non vinti in voce di lutto. È una contratta, ma anche l'apertura delle cime, una contratta solo per quella, non conviene fare così per telefono, per radio. Ma quella dei fatti già Luca già sarà da mettere le mani e adesso è perfetta, a posto. No, Vanni, ti dico che mi stavo un po' girando le balle perché se hai sentito, capito, è in macchina e metti un via sotto questo linee che io lo sentivo dalla macchina. Non mi so, come ti ha fatto la Biana di Campera, andava più forte a me qua che a lui, quindi. No, non me la fatti niente. Non ho problemi io di competere con la gente, lo sanno dove sono, quindi se voglio fare faccio più di loro, ma senza molti problemi, no? Come hai detto tu. Un tubo da 3-4 bollici senza traliccio, l'antenna in alto, e vai che ce n'è, perché da qua non me ne frega niente, continuo a rimanere come sono, va bene così. Ma quando lo sentire sento come gli altri, non c'è problema. Gianluca, lo senti a Vannino, sì? Sì, lo saluto, buona domenica, 25 aprile, mamma mi sei buona domenica, bella domenica oggi. Ciao Vannino, questo è tipo qua, Luca da Porta Torres. Ah, aspetta che è un po' fuori. Sì, mi senta che bene, 9:10, 9:15 aprile. Allora, Claudio è così. Ma cosa dica, ma io non devo fare concorrenza di nessuno, non me la potete tutti nulla. Ma zero frutto, ho finito e sto bene così e non me la potete nulla. Quando voglio fare attività radio, sai benissimo che quel po' che ho la faccio, quindi non me la potete nulla. Io non devo andare, io là, mi ho messo la caffè in macchina, ti ho detto, ci ho messo volte 17 adesso in macchina. La cosa che infatti adesso che vabbè un momento trovo a Marco e c'è l'accordatore che non funziona, via. Non so se sia l'accordatore ma lo proviamo sulla sua macchina e poi so tutto. forse l'accordatore non funziona, per il resto andare, andare tra. A me guarda, ho detto la radio la faccio così a livello mistico e non me la puzzi come te. Quando devo fare pure qualcosa di serio, guarda, non faccio altro che allungo la mano sinistra e accendo. Quindi aspetta un poco. Ma boh, ricordami il nome per dottore Sladmino comunque soffro. Sì, guardi Luca la Porta Torre, sì. E va andare, va bene tu che stai andando bene la radio. Non dire Claudio, riprendi. Sì, lo sai, io sono sempre d'accordo, sono pure amici. Io faccio la seconda, è tutto acceso qua. Ma non faccio altro, vedi? Solo andare il volume e cambiare di cosa. Dall'altra parte lo stesso. È tutto acceso qua. Quella parte lì, noi sono tutti a volume a zero, perché non è proprio. Non è più tinta. Quando dobbiamo fare qualcosa di diverso, non si fa per cambiare il microfono. Quando si fa la 27 si sta qua, si chiacchiera, ci si diverte come un altro giorno, hanno fatto un casino. Niente, se si parla come si mangia. Sì, Gianluca, molto bene, ma molto peccato che non c'è quella spinta come questa, ma con calma già lo faccio uscire alla grande per 140. Va molto bene, sì, hai migliorato già dal giorno alla notte, appena ti ho sentito mi sono accorto che stavi usando un 60 perché io conosco molto bene sia la timbrica che lo stacco del microfono, però non sapevo che era un 14. Però ti ripeto, per la radio con poco vero spesa, proprio devi andare sul trimmer giusto, che qua non ti dico perché poi tutti si mettono a toccare a fare magari. Faccio casino, capito? Ma la mia esempio ce l'ha, ce l'ha fatto uno, eccetera, eccetera. E quindi è una truffata. Devo andare sul trimmerino suo e dare proprio con le cuffie alle orecchie, dare proprio con le Mickey Game a metà, dare proprio un tocco, un pochettino magico e basta, e tu sei arrivato. Perché come potenza ne hai anche da buttare, era completamente chiusa. Ok, a te Gianluca. E allora quando è disponibile tu, io per me non c'è problema. Volevo fare un passaggio qua in FM a vedere cosa, come risultava in FM. Ecco voi. Ecco. Ma lui non stava dicendo che ero un po' fuori? Ma dicevamo che era un po' fuori, perché adesso io ho questo Ritty Switty, quello lì vuole tutto chiuso sulla sinistra, vero? Quello si usa solo per le bande laterali. Cosa? Il notch, diciamo così, dove c'è il potenziometro interno e esterno. Un notch, c'ha le baby level. Per la M devi tenere iscritto, dove c'è scritto NB1, il tattivo lo metti dentro, e la levetta, dove c'è scritto NB Lev, l'ultima levetta che è a destra in fondo, quella la metti a metà, e basta, e tu sei arrivato. Quello mi volevo dire, no, aspetta, quello in alto, allora ti ritrovo di fronte io sulla mia destra, che praticamente sarebbe come il nocciolo switch, quello del coso. Non si può che non sono totalmente da sopra. Ok. Quello lì l'interno vuole tutto girato, vuole messo a metà oppure tutto girato a destra? Ah, dove c'è scritto Rick e Shit, quello lì, tutti e due al centro li devi mettere. Se uno ci va al centro perché già c'ha le cose che si blocca. Tra l'altro adesso siccome le ho levate le monopoline che le stavo pulendo, le vedo anni visti. Il bianco, quello nero, deve andare dritto su quello grigio, tutte e due. La striscia rossa e la striscia bianca devono combaciare, cioè il ritte e lo shift a zero. Ok, ma quello lo puoi tenere come ti piace, se è un tattino dove c'è scritto ritte non è inserito, non agisce. Non è un problema qui. Mentre l'NB Lev, l'ultimo slider che c'è in fondo, sempre sulla parte degli slider, no? E poi c'hai NB1, NB2, l'NB2 lo lasci stare in fuori, l'NB1 lo tieni inserito tenendo l'NB level a metà, e questo è quello ti attinua tutti i rumori, la motocarrozzella, capite, tutte le i rumori che ci sono in sottofondo, e non hai problemi, quello per la M, se tu non mi dai mai, me lo tieni sempre così, lo va benissimo, alla grande. Scusa, cos'era l'LB2 inserito? No, l'LB2 è disinserito, l'LB1 è inserito. Ok, l'ho fatto, adesso. Sì, sì, già tranquillo, ho già preso a poco già. Sì, sì. Ok, Claudio, insomma, pensiamo tutti per il carico qua. Dopodiché continuo a dare una pulitina così, perché l'ho aperto, l'ho a bassa pressione, l'ho dato un po' la polveratina e le cosettine lì. Quando le memorie le sai memorizzare in quella radio, perché si memorizza, io per esempio ho memorizzato dal canale 1 al canale 30, no? Poi nello 00 mi ho messo il canale 40. No, io qua le memorie ancora non le ho sistemate. Vabbè, quello è una tronzata, però c'è un particolare, perché dal canale 10 in poi, quindi dal 27.075 in poi, quando tu vai a memorizzare, se non viene inserito lo split e poi inserisci memoria in, devi lavorare con due dita dal canale 10 in poi fino al canale 20, perché altrimenti ti appare lo split, capito? Ti appare lo split, quindi quando tu vai a cliccare, per esempio se sei sul canale 11 schiacci e se ne va in split, allora per far sì che lo split sia inserito nella memoria dal canale 10 al canale 20, devi tenere inserito split con un dito, poi dove c'è il tastino arancione memoria in, pigiare quello e poi WFO memoria, sempre tenendo split, perché altrimenti non te lo cancella, non te lo inserisce, praticamente stai adeguando A uguale a B, capito? Se no ti parte lo split, comunque quello per quando vieni te lo memorizzi, non c'è problema. Adesso tiro così a sintonia continua e lascialo camminare. Ehi, allora vediamo un po' che... volevo un pochettino abbassare un po' il vate. Ecco qua. Ecco qua. Vediamo un pochettino, mettendo la 20 qua, di quanto è sceso il segnale? È sceso a 8,5. Guarda, se tu adesso che calda la tieni a 35 watt, 30 watt di portante, per me se ne va a modulare a 50-60, sei tranquillissimo, non c'è nessun problema. Così la fai scaldare e ti accorgi se la ventola entra in funzione, se è rumorosa, tutte queste cose qua. Infatti, ci bisognerebbe vedere infatti se la ventola entra in funzione, se la sento fissica. Lo prendo la mano, vabbè, senza il coperchio, direttamente sulla dove c'è il contatto diretto con la colonnina e con il dissipatore. Il dissipatore lo sento tiepido, là, leggermente caldo. Quando scalda mi pare che si arrivi a 70, 65-70 e poi entra in funzione la ventola. Se il termometro è a posto. Se non è a posto scalda un po' di più, ma comunque la ventola non funziona, sino a 80-85 gradi non lo fa niente, va alla grande. Regola però, adesso che la radio è già in funzione, che è tiepida, te lo regoli a 30 watt, 30-35 watt, non c'è bisogno, te ne va 50, era solo per fare la tarattura, te lo metti a 30-35 watt, è importante. E ci moduli così, sempre così, in modo che lui si stabilizzi e ti dia la cosa giusta come il mio. Io ad esempio ce l'ho a 30 watt di portante, sono 60 modulati, 60-65, ed è sempre così, a caldo e a freddo, non lo tocco mai il power. Infatti, io lo metto a 20, sono quasi 40 modulati. Va bene, portatela a 30 l'importante, e non accettare così, è uguale al mio. Ecco. No, che basta, vabbè, devo essere un tocchi, ma la croce. Con l'unghie. Ok. Ok, così a 30. Ecco, a 30 sì, sono più a 9 con picchi positivi, quasi a 9,10. 97. Sei favoloso. Poco fa, all'inizio, eri Santiago Zetti a picchi cattivi. Adesso va bene, sei perfetto con la mia, si trova che avete. 5:15 associo, quindi. L'importante è che abbi picchi in operazione, ma sempre in positivo. E tu, come watt si accorge? Adesso lasci così a 30 watt. Lui quando scalda ti accorgi intanto se sale. Capito? Ma non c'è problema. Ma lasci così e tu vai a una radio, fai un baracchino eccezionale, dici, un baracchino eccezionale. Ok, Claudio, ti ringrazio per adesso. Se ci sei dopo pranzo facciamo una chiacchieratina, magari dopo ci organizziamo per vedere un poco. No, vabbè, ti volevo dire delle cose, però non c'ho più la cosa del coso. Ti volevo chiedere se c'avevi nella rubrica il tuo numero, c'è nella rubrica? Di casa? Eh beh certo, non vi do il telefonino, mica non mi turbo le micchie. No, non c'è, non c'è. Ah ecco, volevo fare una pasta magari per organizzare. Scusate. Ciao a tutti e due, ciao caro, mangiato all'altro. Sentiamo. Ciao Anni, sei qui, ci sentiamo più tardi. Fatto dare da Giampaolo il numero di casa. Yeah. Ciao Bannino. Buon pranzo, fate il tuo resto familiare, ci sentiamo a presto. Fatto dare Gianluca da Giampaolo, capito? Troppo dare da Giampaolo non c'è problema. Ok dai, sono pronto al carico qua, salgo 10 minuti, lascio stare acceso qua. Ok, grazie per adesso, ci sentiamo dopo. Ehi Agnello, ottimo per la truppa, lascialo acceso così è meglio, si fa brisa ancora di più. Ci aggiorniamo per telefono allora, ciao, buon pranzo e saluto a tutti, passo anch'io il correttivo per il pranzo, ciao a tutti quanti gli ascoltatori, buon pranzo. Ciao a tutti. No, quell'antenna si chiama RTF Bigamma 49-70. E già è quella, sì. Già è quella, non c'è bambino. Fammi. Ma è già salito a mangiare. Non dovrebbe essere quella. Dovrebbe essere quella. Dovrebbe fare dai 6 metri. Ma mi pare che sia quella lì comunque, mi pare che sia quella verticale lì, che c'è due bobini, una sotto e una al centro. Positivo, allora qua in poche parole c'è tutto spiegato, nel senso che allora se si vuole portare la frequenza bassa a meno di 49.500 al segno, se si vuole portare l'antenna a 49,000 allungare il cimino di 2 cm. Se si vuole portare l'antenna a 50.000, accorciare il cimino di 2 cm, per regolazione dai 69,500 effettuare lo stesso procedimento. Esempio 70, accordare a 2 cm e segno, vabbè comunque c'è lì, là. Al segno 49,500 MHz, fascetta stringimento, frequenza bassa, frequenza alta. Dovrebbe andare a oltre i 70,300. Sì, già è quella lì, già è quella lì, da 50-70 MHz, già è quella. È quella lì, la verticale, per i 6 metri, quella sicuramente. Comunque la vediamo, nel caso abbiamo dei dubbi, prima di fare casino, la faccio vedere a Massimiliano, non ce la conosce, non c'è problema. Vabbè, Max, io vado a pranzo e ci sentiamo dopo. Stavo regolando la radio di Gianluca, ha migliorato, l'hai visto il segnale, hai visto qualcosa? Da quando è entrato a quando se n'è andato, un'altra radio. Ok, dai, va bene, dai, ti saluto anche io, Club, un caso con tutto, dai, ci sentiamo stasera se coincide, ciao! Ciao Massimiliano, d'accordo, dai, vabbè, quella già te la conosco, va. Mi vuoi comunque la buri della LC40, mi sa la riunita, anche io sono 140. Va bene, buon pranzo a tutti, ci sentiamo, passo e chiudo. Arraglio rito sopra, arraglio rito sopra, ufficiale di Turri con 908. Ah, ecco perché sento un bel amplificazione. Ah, ho capito, grazie. Va bene. Ti devo dire una cosa, Sandro, però, stai attento quando attacchi il microfono per amplificata con la radio. Perché al mio Galaxy Uranus, come al Galaxy mio Antonello, al Galaxy Gianni, a tutti i Galaxy sta succedendo una cosa un po' particolare. Capito? E praticamente con la spinta del microfono da tavolo cazzo parte il transistor di commutazione dell'oscillatore di della radio praticamente. Il mio registro è partito. Adesso Vittorio l'ha aggiustato ad Antonello, adesso devo portare la mia. Ha funzionato un paio di volte, ho fatto un sacco di prove col cane più 2, col cane più 3, con la sciavetta eccetera, e brucia il transistor del modulatore, capito? Quindi stai attento a non spingere molto, tienilo basso, perché ha un transistor molto delicato. Basta mettere il cavaletto a quello che succede, ciao Cla. Basta mettere Antonè? La DC è un lettore, e quel problema non succede, ma l'aveva fatto a me nel 2009, una volta. Quando io ho messo la DC a manetta, ho messo qualsiasi microfono MT100, quello che è, boh, non si è più bruciato. Eia. È ok. No. Lo sta reggendo abbastanza bene, ok. Soltanto magari ci saranno delle riparazioni da fare. Come, dammi un rapporto, segnale radio, com'è? Segnale tuo, segnale 15 abbondante, la radio non è male, ma è lo sai, va bene, ma io preferisco sempre l'altra. Sì, Antonio, allora vai 5 minuti, lo apriamo, questo è il mio, perché così non brucio più il transistor del modulatore. Infatti non sono andato in lingua, si è acceso la gente qui. Poi qua. È acceso. Però se vado ad attaccare il microfono non va in PTT. Proprio perché si è rotto si è bruciato, rotto, non so, scoppiato, chiamato come volete, questo transistor, poi mi pare che altro cosa, c'è anche una resistenza con un condensatorino piccolino, che praticamente non necessita un PTT dell'oscillatore della radio. Vabbè, facciamile il culo, non c'è problema. Vai bene Sandro, vai bene. Tutto ok. Ok, dai. Vabbè, questo il 908 logicamente adesso vuole centrato. Ok, vuole un attimino centrato. Tutto lì, vabbè dai. Anche io devo fare carica, dai, ci sentiamo. Ehi, adesso dai, ci aggiorniamo magari più tardi, dai, non c'è problema. Tanto noi ci aggiorniamo più tardi che è pronto tanto, dai. Ok? Sì, non c'è problema. Comunque basta che cambi il modulatore, costa un euro, un euro 50, costa di più. Aspetta adesso, ci stiamo dopo, là. Ciao. Ehi, no, non parla anche a te, ho sentito che hanno chiamato. Ci sentiamo dopo e mi dici cosa devo fare, ciao. Aia. Dopo povente. Thank you. mettiamo ormai che sono normale. Ok. Mettiamo ormai che sono normale. Adesso cambia, no? Firme per quelli, perché praticamente questo diceva non paghiamo l'IMU, noi abbiamo comprato la casa con tanti sacrifici, non dobbiamo stare a pagare tassa di niente, perché è una cosa illegale far pagare la tassa su una casa che tu hai fatto sacrifici per comprare. Bianco per me là. La pelluccia è stata della radio. 10, il canale 10, cambio. Ma venendo per me. Cosa? Ci hai mangiato un rimbuto? No, ragazzi, ho mangiato a luna. A luna giusta, giusta. Quindi adesso ho finito. E tu, mandegato, Gianni. Continuo a non capirti, sei di nuovo scatto. Scusami, ma io non so cosa dirti. Cosa hai detto? Aspetta, tu mi dici quando vado bene. Sto abbassando, guarda, dimmi quando vado bene, se vado bene adesso o no. Ancora appena, ma poi le date che barocca. Prova, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così va bene, il segnale tanto non cambia, ti porta solo via la modulazione, boh. Gianni di Chiaramonte, avanti. Ti ho sentito, io ho le orecchie fine. Come si può vedere? Con Gianni Chiaramonte. Non sento solo un fischio, però non sento altro. Aveva bassino, ma già lo sento lo stesso. Manda Eri. Già ti ascolto, va. Eri bassino perché c'è la QRM. Poi addirittura non ti senti. Sentiva di salutarti. Come mai questo disaccordo tra di voi via antenna? Mamma te c'è. Sì, ha detto che non ti sente, è strano. E lui c'ha le orecchie grosse. Aspetta che abbasso, me l'ha fatto aumentare, poi abbassa, così va bene, va bene. No, benissimo, io ero sì. Ma la differenza c'è tra il transito e la prova è quella che se io vado a volare anziché 10 di picco però di modulazione, non fisso, di picco di modulazione, avevo 20, allora il segnale sale. Al transito più di quello non le puoi dare, perché prende quell'ingresso e dà quell'uscita. La prova invece no, più scalda e più chiaramente ti va più uscita. E lì il discorso che ti ho fatto. Poi la differenza c'è in macchina, comunque la radio che tu hai, ce l'abbiamo uguale praticamente, il picco di modulazione invece è diverso, perché non essendo fisso, non essendo stabile, non essendo stabile, infatti, col picco di modulazione non ti saturerà mai. Capito? Invece quando tu ne dai stabili e superi quei determinati watt in ingresso, allora ti smorta la radio, perché il transito lavora per dire con 10 volts, ok, arrivata a quella temperatura lui stacca e quindi ti dice boh, out, fermo, non mi vale di più perché sono gli ubriachi. Andare. Io sto provando con la massima potenza dell'apparato e dando il minimo del baracchino. Guarda se è come va. La massima potenza dell'apparato e il minimo del baracchino, non c'è dubbio. Ciao Gianpaolo. Ciao Gianpaolo. Non mi hai capito. Ha dato il minimo della potenza del baracchino, quindi c'ha di entrata circa 2 watt. E la stessa cosa della parola. Avete di compreso a te, Allora, in scelta potenza tu, in transitata non devi mettere mai, arrivo, mai. Devi tenere dalla quarta alla quinta. Perché la stessa potenza non serve assolutamente a niente, ecco quello che sapeva. Allora, dalla quinta alla sesta non cambia assolutamente niente. Te lo metto per iscritto, noi mettiamo il wattmetro. E tu ti accorgi che dalla quinta alla sesta non serve a niente, ok? Tutti gli amplificatori transitorizzati con il commutatore da 1 a 6 si tendono a 5, ecco perché saturi tu. Capola ce l'ha 5, va? È come che non abbia niente attaccato, segnale 9.35. Tanti lo trovo, se tu accadi non ci la stai usando, ricordati, non lo mettere mai a 6, perché a 6 è l'ultimo scatto del relè, non ti cambia la modulazione ma ti porta via la radio, sempre a 5. La quinta potenza è il massimo degli amplificatori transitorizzati, anche in macchina, sempre in quinta potenza, addirittura lui ce la tiene in quarta. Ascolta, io adesso sono al minimo con l'apparato, guarda adesso, metto al massimo, guarda se satura. Molto, ma molto, molto, molto meno, ma un bel poco però, E così dovrebbe andare bene, perché, cosa ti volevo dire, c'è questa è in quinta potenza, in quinta. In quinta? Sei saturo Gianni, sei saturo, le hai dato troppo ingresso. Mettilo, allora, se è quello che dico io, se è il B3, lo devi mettere non più di 10 watt. Ne ho 9, così adesso ne ho di meno, ne ho 5, guarda adesso se va bene, ma 2, 3. Così sei perfetto, non perfetto, più che perfetto, però ricordati, lascialo così, perché altrimenti, stando in quinta potenza, con la massima potenza della radio rischi di fare danno. Invece ne lasci 5, 6, 7 watt, non devi superare quel watt di ingresso in quinta potenza e non ti può dire niente nessuno. Io mi accorgo già, non si sa, sono distante da te, non è che sono attaccato, capito? Ciao Gianpaolo. Ma aumentare già aumenta, io c'ho il watt, ma tra fianco aumenta, sì, a voglia, di 20 watt aumenta. Ma 20 watt te ne aumenta sul volmetro, Gianni, cosa pensi che ti aumenti anche il segnale? Non aumenta niente qua, vai tranquillo, che ti do il segnale io e non è un baracchino, vai tranquillo, sereno. momento niente, il VAP mi ha tratto la segna perché c'è l'accordo lì vicino, ma in antenna quei 20 VAP sono dispersi, non serve assolutamente a niente, credimi. Ecca, paga. Andava, così se va bene così lo lascio così, buonanotte. Faccia la Luigi Guasci. Insomma, non hai trovato il valvolare di sequigliato per la città di Zatto, va? Io te l'ho chiesto se me lo davi il tuo, non me l'hai voluto dare, l'ha mai preso mai. Già, non c'è stato il tuo. Guarda, sono contentissimo, 200 pazienti, perché il numero lo prendo il mio, a differenza di quello da più vatti del tuo, sono scommetto, senza saturare, quello va al 48, senza saturare. Quanti vatti ti dà quello che ti fa potente? 180. Sì, hai già perso. Hai appeso. Io con il picco di una radio, colava in 48, con le altre radio da sui 130 a 140 watt, colava in 48, la lancetta ha visto la macchina e la Gigi picchia sui 200 che è una bellezza, ma ha fatto in altro esterno, quello interno del 131 impattisce, ha fatto in altro esterno 200 pini, e c'è una valvola. Adesso vediamo quando arriva il mostro. Quando arriva il mostro lo vediamo. Con quello non si scherza. Vabbè, vado a mangiare un boccone e sono di nuovo qua. Giancarlo, perché sei così basso? Chiara, vai. Allora, c'è rientrato Gianni. occhio con le pastiglie, non esagerare mai. Una volta va con me, sa, aveva mal di dì. Ci ha preso tre tachipirina, no? Tre, come si chiama, quelli antidolorifici, va. Momento, cose del genere, è entrata in coma. È stata fatta in bagno in terra, gliel'ha massaggiato. Auli, non mi veniva. E se non la massaggiavo, mentre stava arrivando nel 118, era già viola. No, non è un destino ortopedico, basta, no, non ci sono problemi, però c'è anche la protezione. No, ma è proprio queste giornate così che si comincia a cervicare, no, c'è così che inizia a conosci, e quindi... vecchietto Gianni, questa 40 anni va lungo, passati 50, è così, è così, va bene, va bene. Ma qui lo corre messo, c'è un basso, Giampaolo senti 8, arriva benissimo, non c'è problema. Sì, già mi ha detto che li ha. No, cosa ti ha detto? Ogni accusa, massaggia la ghiscia. Vedi, stai attento, questi massaggi non va bene, non va bene, Gianni, date una calmata, faccia perdere i massaggi. Non mi dici se ne intesa male una vecchia da 80 anni già avessi massaggiato, no, la matta non è varia. Poi, in quel momento non ci pensa a queste cose, va, ti dico la verità, non ci penso a me. Mi sono dato che sono vedete quando gli ho visto le unghie già viola, la braviola, che ne stavo pensando certo. Ma no, le vecchie di 80 anni le massaggio lo stesso, perché no, non c'è problema. Se c'è da massaggiare, massaggio sempre. Sì, a me mi piacciono mature le donne. Maniaco. Gianni, ah, piano, piace le donne mature. Buonasera signori. Ciao Pino, a me è bene, la vendita è bene andare. Sento Pinuccio. Vediamo, già riunitoci, Sandro o Pinuccio. Gianni, doppio più. Sì, ya. Mi hai confuso per qualche altro. Ciao Sanno, è che mia moglie stava parlando, padre, stava prendendo in giro per questo che ho massaggiato la commessa la volta, che ha preso tre pastiglie e una dopo perché aveva mal di denti e l'ha trovata in coma in bagno. E mi ha detto che era tutto ricusa mia moglie. Devi dire la verità, ti ha mangiato un po' di carne e non l'ha digerita perché l'ha ghiacciata. Ciao Popo, buonasera. Ma avete sentito giorni fa cosa è successo in un ospedale in Sicilia? Ma la che lo sto usando, sa, che ti sei tutto diverso con la modulazione. Sì, sto facendo andare un po' la... Aspetta che diminuisco. Ok. No, gara, se sto facendo andare un po'. Sì, ma ti ho detto quando ho entrato l'armadio su Archino. Ah, io attacco l'Omega e girano i BB, le due che sono Galaxy, punto. Come su Galaxy, Kinder e Bueno. Sì, va bene. E questo fa la bua, capito? Questo fa la bua. Cosa sto dicendo? Avete sentito giorni fa cosa è successo in questo ospedale lì in Sicilia? Negativo. Allora, c'era questa donna, aveva, mi sembra, 50 o 60 anni. L'hanno dichiarata, il medico le ha dichiarato il decesso, pronto, in barella, sono arrivati i pinguini, che erano i pinguini, a portarla via, e un poliziotto lì si è accorto che ancora dal torace stava respirando. È morta parente. sapere, adesso ci sono tante queste cose. Sì, cazzo, ma io, ma come dicevo? Noi una volta siamo andati con le ambulanze, a un funerale al cuore immacolato, a Sassa, lì, no, non in continente. Perché cosa è successo? Sotto là, a un certo punto della mesa si è sentito bussare proprio forte. E si sono messi tutti a gridare sui stadi dalla chiesa pensando che era il morto, invece sai cos'è? Siccome sotto c'è l'oratorio, giocano a palla e cose, l'hanno dato qualche colpo di palla a caso forte, e sono tutti scappati dalla chiesa. Non è già mai dovuto dire il fuoco a noi, un casino. E ci facciamo girare un po' la ventolina qua, no? Se no poi viene a disempire la radio. Aio, attacca questo Omega, bingo bongo. Hai detto che non arrivi l'attacco in occhi? sentire questo amplificatore io, immaginate quello grande. Pagato. Ma io rimango sempre del parere, parere, che quelli della CT erano i migliori della ZG. Quali? No, guarda, è l'unico amplificatore da salotto, diciamo, perché lascia perdere questo che è stato modificato da Roberto, ma un V131 è, secondo me, il lineare più riuscito di tutti quelli della, che ha fatto la ZG, capito? Sto parlando di quelli piccoli, non di quelli grandi, non di quelli grandi, di quelli piccolini proprio da 100 watt. Lascia perdere questo, ne era 200, ma questo è stato modificato. Io quelli della valvole, però, Gianni, solo a valvole, sto parlando di quelli a valvole, La ZG come lineari transitorizzati non ne ha fatto neanche uno, grazie a Dio. Lo speedy della CTE non ti piace? Ho avuto lo speedy, ho avuto quasi tutti li ho avuti, quelli piccoli così, però il V131 è stato sempre quello che ha dato molte soddisfazioni a tutti, dai. Degli anni che furono. Ti rendi conto che io ho la prima serie del BV131, non è che c'ho, ad esempio, Antonello di Ossi c'ha la seconda serie, Antonio c'ha la seconda serie, io ho la prima serie, capito? Che praticamente c'ha la piastra delle valvole un po' diversa, si può modificare. I piedini si possono cambiare, cosa per i piedini? Magari c'ha più piedini, una valvola, ma ne ha di meno, si può cambiare questo? Non lo so esattamente, bisogna sapere che lavoro ha fatto Roberto, ma questo non c'ha una 509 o 519, questo c'è una Z811 che praticamente è una valvola da 200 watt, capito? Quindi sicuramente ha fatto modifiche sulla nodica, ha fatto modifiche anche sull'alimentazione, va bene, è molto più grande la valvola anche perché c'è posto, ma è nuovo, sai cosa vuol dire nuovo? Nonostante sia la prima serie, nuova, era venduta Massimiliano. Sì, lo so. Ma dava 120 watt, mi pare, Massimo. Ma quello di Antonello mi pare che arrivi a un'ottantina di watt. Con la valvola originale, la 509, da 80, 85 watt, 90 watt, va. Questo è la 200. E sto andando con allora il picco massimo dell'ora 48, 20 watt, da 5 watt a 20 watt di picco di modulazione e sono a metà potenza. A tutta potenza abbiamo bruciato il B300 di Massimiliano, perché l'ha toccato appena è salito il picco di modulazione oltre 30 watt e l'ha bruciato. Questo c'ha 40 watt picco, da 0, da 2 watt a 40 watt. Prima erano così, e va molto bene, non c'è problema. Alessio! Attenzione Sparviero! Dica, faccia funzionare quell'Omega, faccia funzionare quell'Omega! K di positivo, questo è tuo Omega, senti la città di Porto Torres? Azza, solleva, fatti ascoltare, cambio! Ecco, adesso fatti ascoltare, adesso posso ascoltare, non ha giù i vitamine, è usati. Sto uscendo con l'apparato. basta, senza vitamine, dai. Già va bene così, non c'è problema. Gianni, riprendi? K. Aspetta un attimino. Gianni, adesso come mi ascolti? Ma Radio Santiago. No. Il Radio di Santiago. Ehi, dammi un check up, dai. 9:10 Radio 5. Ok, aspetta un attimino. Gianpaolo, ci sei? Allora, vediamo un attimino. Claudio, siccome poco fa avevamo fatto una prova, c'era Franco Di Sorso. Ha fatto una prova, dice che Gianpaolo gli arrivava a Santiago 5 e Santiago 6, non riusciva a copiarlo. All'infuori che Gianpaolo verso Franco Di Sorso sia negativo, diciamo. Adesso ti faccio venire avanti a Gianpaolo, vedi un po' come l'ascolti. Vai Gianpaolo. Sì, Santiago 9 più 5 qua, Sandro è leggermente più alto di te, capito? Dipende da quante volte state usando, non lo so. Sandro è 9:10, tu sei poco più di 9, capito? Sul 9:3, 9:4, vai, quasi 9 più 5, ma è una cosa normale perché tu c'hai un'antenna diversa dalla sua. Però ti posso garantire che per da Porto Torres a Sorso non c'è nessuna zona negativa. Su questo ci puoi contare, capito? Quando sono in macchina, dai, apri, statemi tutti bene, poi continuo questo. Mi raccomando, non ti allontanare, rimani in zona, In zona, vicino. Ok, Gianni, dai, buona passeggiata, buon divertimento, dai, sentiamo tutte le prossime. Ok, vediamo un attimino. Prova radio. normale già va bene. C'è il parlascolta e mi va di soldo ogni volta, comunque già va bene, non c'è problema. Gianpaolo. Ehi Gianpaolo, un attimino al telefono. Gianpaolo, un attimino al telefono. Allora, aspetta un attimino, voglio fare una prova, perché qua c'è il tasto. Qua mi dice STS più RB. Poi c'è l'altro tasto che dice MTS più RB. Non ho capito che cosa consiste. Aspetta, ti faccio un passaggio. Vediamo se è sempre lo stesso. Ok. Allora, adesso l'ho messo in MTS più RB. Ha cambiato? Sì, la modulazione è molto molto più compressa, molto più forte. Lascia Rovescino, tocca a nuda. Allora sta entrando il doppio modulatore, vai. Infatti vedo il picchi di modulazione che sento. Questo c'è il doppio modulatore per quello che spinge, sennò spingeva molto molto meno, vai. No, lascialo così Sandro, che va molto bene, benissimo, non bene. Alla grande non ci stanno problemi, dai. Tutto positivo. Attenzione Antonello Pomponio. Sandro, c'è l'incendio della radio. Ogni volta che entro con questo là 48 lì si spegne la radio. C'è addirittura. Addirittura. Aspetta un attimino. Visto che ci sei. Allora, dove sei? Sei qua. Già sta rullando bene, anche quello lì si fa sentire, dai, dai. Allora, questa è una 48 e c'è le radici vulcano, capito? Questo è uno dei primi, questo ce l'ho nel 2004, io ho fatto il conto. Questo c'ha scheda colt, doppio modulatore, la modifica dei canali e il bip. Mi è costato nel 2004 450 euro. E va alla grande, muy bien, cambio. Faccio girare un po' questa radiolina stasera, va, giusto per far scaldare un po' la scheda, altrimenti no, non lo sto mai usando. Ci sentiamo dopo, vai, dopo se coincide, cambio basso. D'accordo. Motopompa, com'è la situazione? Ti ho chiamato e non mi hai risposto. Chiusa così questa cosa, è un peccato, guarda. che roba del comune è lampada a Barnuda. L'hanno aperta quando c'erano le rotazioni e poi l'hanno chiusa, capito? E poi l'hanno chiusa. E ultimamente mi pare che l'hanno riaperta quando c'era quel freddo gelido per i barboni. E infatti c'erano sempre carabinieri, roba così, capito? E poi niente. Noi che siamo molto grande, però va bene. C'è il discesone, è abbastanza messa bene, la verità. Da fuori io non lo vedo una cosa che sta cadendo a pizzi, la verità, non l'ho mai vista. Ho passato ieri, ho guardato bene, per me è tutto a posto. L'unica cosa che c'è da tenere è tutta l'erba che c'è intorno, vedo poca di erba alta, è cresciuta. Quello non avevano recitato, no? Perché entravano dentro, capito? L'avevano recitato tutto e adesso è tutto in fase di abbandono. Per il comune non si sa gestire le cose. Non si sa gestire, capito, Antonio? Purtroppo è così. Quello si potrebbe fare, ma perché il cemento si caccia in chili, non te ne pesi più. Quello sì, vabbè, ma si può anche fare una cosa. Soprattutto si può mettere anche l'erba sintetica, non è che sia. Quando cadi non è che ti fai così tanto male. Ma l'erba sintetica è morbida. Non potrei anche molto, anche la vedo a metà quadro. Gli metti sotto e sembra sempre verde quel pezzettino di campetto. È bello avere quel capito di faccetto, ma piccolino, va bene. Prendo un periodo di affitto per giocare così, facile. Qualche partita va benissimo. Lo so, però è un bel pericoloso. È un bel pericoloso. Cazzo, se cade lì e ci metto armato è un casino, come fai? È meglio giocare nell'altro campetto, quello di Serra Nera, lì a dove c'è la pizzeria, dove c'è il fornitore. Lì già va molto, va bene, quello lì è troppo pericoloso, se cadi è un casino, capito? Vabbè. Comunque io quello l'ho conosciuto quando l'hanno fatto, poi l'hanno recitato, hanno messo la rete sopra, perché quando giocavano perdevano sempre la palla, e allora l'hanno recitato. Poi hanno chiuso la scuola e in fase di abbandono. Esatto, proprio quella che sto parlando. Hanno fatto col capo di carabinieri, poi si poteva fare al limite, modificarlo per dire, per qualche altra cosa, non lo so. Non si poteva fare capo di cancetto, no? Come sono ghiaia, come si vede, ghiaia e cemento, se ne fai niente ti ammazzi, ti apri tutto. A me dopo mi fai un coso sintetico sopra, se cadi nel morbido, però è sempre un casino. Il cappetto da tennis non lo potete neanche fare perché è piccolino. No, come le fatti non ci gioca mai nessuno, neanche così. Qualche volta ho visto ragazzini giocare, ma uno in porta, tiro da fermo. Cazzo, se cadi lì ti scivoleggia il virone, ma matto sì. È praticamente cemento fratassato, è passata la riga e boh. Non l'hanno mai finito, sicuramente era da finire, ma non l'hanno mai finito. Te figurati. Ormai quando è caduta la pioggia che si è consumato il cemento che c'è sopra. Si vede che io fine e fine si vede. Me lo immaginai giù. No. Non è cosa da scherzare quella, dai. Per giocare a campo di calcetto ci vuole sintetico o il pomice, dai, roba leggera, ma non ti fai male. Se ti piace i chili te ne accogli una para. Non sono una para, c'è un'ambulanza a fianco perché ti ha prendere come se stavi in moto nella, in una sala di campagna, ti ha veduto un dammi. Ah, ma già, l'ho già visto com'è. Ti ripeto, io l'ho visto fare, infatti ho detto mio, la scuola le stanno facendo il campo di calcetto, è tipo una palestra esterna, d'estate esci con i bambini a giocare fuori, a fare ginnastica, eccetera, ma era liscio liscio, capito, adesso con l'acqua, con tutto, si è completamente scrostato, si vede la ghiaia proprio viva, è un casino. Non fa, se l'avessero terminato in quegli anni che la scuola era aperta, allora va bene, ma così non è assolutamente fattibile giocare lì, capito? Quello sì, vorrebbe, ci vorrebbe un coso, ci vuole, magari anche la cosa, a Benzone, magari cosa può fare di quel campetto e di quella struttura. Ma noi se ne vanno in colorato d'uso, capito? Ne vale anche la pena, si può fare qualche cosa, per dire. Lì dipende dal comune che cosa vuole fare, dopodiché si può sicuramente finire fare qualcosa di buono. Se no, diversamente no, non credo che si possa utilizzare, capito Antonio? Perché ti ripeto, è molto, ma molto pericoloso. Puoi giocare così, dai. Tiro la fermo, si mette in porta, fai due tiri così, ma fare una partita, così tu si cacci di una coglia di una para. Già l'ho visto lì, l'altro giorno trovate un vento. Ha fatto lì, rimane proprio di fronte alla villa di Mutola, c'è cioè, la con la villa Arancione, la cosa è sempre chiusa, evidentemente là c'è questa la banca, è sempre serrata, quella è la villa di Mutola, quello del supermercato che c'era nella famosa se prima. E Antonio, mi si fa vedere con uno che è carbonato dall'83, non sono arrivato ieri, no? Ehi, con Simona, che aspetta, conosco tutti della famiglia, non c'è problema, c'aveva Emeluca qua, dove c'era prima il supermercato piccolino della Vespa, dai. Già lo so, non c'è problema. Qualunque abbiamo visto, ma con la villa è sempre serrata, evidentemente è sotto sequestro, deve essere in che c'hanno qualche problema con fratello, perché so che c'era qualche contenzioso con fratello, evidentemente li hanno sequestrato, è sempre chiusa, è strano la cosa, prima era sempre aperta, c'è sempre un via vai per dire di lui, usciva fuori, la figlia. Adesso un po' di tempo lo vedo sempre tutto chiusa, con le finestre chiuse, sopra e sopra addirittura, non solo di... strano. È una bella villetta quella mia, solo fare un sacco di soldi quel pezzo di terreno lì. Quel pezzo è proprio allucinante, se dovessimo venderlo, si vale un sacco di soldi per fare palazzine lì. Ehi, già un po'. Magari io me ne accorgo di meno, ma se Antonio ti sta dicendo che ti ascolta basso, Antonio è a 100 metri da me, non è che le manca la ricezione, l'antenna sua riceve quanto è la mia, quindi Giovento, ti è naturale a cavalcare l'antenna, no? Lo sentivo, ma stazionaria ne hai? Capito, quindi era proprio povero e quindi conosco tutti i negozi. Poi c'è la le aperture automatizzate su tutte le sacche di Alonso e Capito. E viene apprezzato di nuovo quello che c'è andato come terra a essere il fabbro nel centro commerciale del turno, mi ha fatto tutto lui. Sì, diamo le porte. Ma comunque già abitano sempre lì, non c'è problema. Vanno alla grande. Io ripeto, l'ho visto da poco e mi sono anche fermato. E mi ha detto che hanno chiuso l'attività per mille motivi e basta, però non l'abbiamo sequestrato niente, non credo, anche perché il Viale Protosi era venuto alla, adesso mi ricordo cos'è che non ho aperto, qua avevano venduto alla Despar, mi pare, dove cos'era, e poi già stanno bene, comunque non hanno i problemi. Non hai capito chi è? Io ho conosciuto il figlio di lui, era un confuso tutto, figurati. Quello che aveva fatto il sequestro di persona, anzi il numero sequestro di fondo gli ha fatto il figlio. Però mi sembra rubato 100.000, un milione di euro, non credo sia un milione di euro, quanto tempo fa, una delle ore. L'ho conosciuto che andava in Venezuela a se ci volevamo spesso lì. E io ho detto, dice che un babbo non ci fanno un accordo, io andavo a casa e si faceva la spesa. E si doveva andare addirittura a pure tirare dalla gascia, a noi gli ha avuto un babbo. Non ricordo, non diceva la sorella. Vabbè, un po' la peccolera della famiglia era quello, comunque già mi ricordo, non c'erano problemi. Ciao Paolo, quando c'è manco lei? Trek? Avanti. Ciao Claudio, ciao Pomponio, ciao a tutti, buonasera. Ciao Paolo, la zia, faccio la dosetta. Controllano il mio segnale di sempre, Claudio, fa la cortesia. Che sono vabbè con l'altro adesso, che l'altro l'ho sentito quanto pulendo. E non vorrei mettere perché hanno un pochino con le misurazioni che abbiamo fatto. Un pochino più bassino, ma di poco, l'altro 995 che è 9. Vabbè no, io aspetta, sono solo quello di sempre. Ecco, guarda adesso questo passaggio, qua com'è? Lui si vuole l'altro, preciso identico. Eh sì, eh. Devo subito. Sono quasi lo stesso, così, però. Riabbasso. Avanti, buon po'. Perché come l'ha andato un attimino in bagno? Preso la via durante la giornata, un po' romani. No, non penso, cra. Comunque io devo uscire dopo, no? E passo un attimino da lì sotto, la controllo. La cavo lì, era vedendo con un binocolo, ma era tutta a posto. Si è abbassato un bel. Non mi sono accorto perché ero col baracchino e ho visto che stava segnando 9 e ci sono passato 140 e sta arrivando Santiago 7. Sì, guarda che mi ho fatto dare quella commissione da Giampaolo, dopo ti faccio una bassa. Non c'è problema. Non c'è problema. Radio Brusa. pensa che aia. Ciao, grazie. Ma c'è un t-shirt più piccolo, guarda, ciao, mamma. E un po' metalli chiamano le luci fuori, va bene? Ecco. La frutta, vabbè. Ciao, bambino. E ya, buonasera a tutti. Anche quelli che non mi ascolta. Quasi della zona industriale? E con te le stanno preparando, cosa si dice? Molto tempo. Ah, se dovevo trovare il catenato, lo avevamo qua. E lo attendo. Ma, beh, aspettiamo e poi ne parliamo. Ah, se ti chiesti, mi dico da Vacchino, che parliamo di un Paolo. Ma basso stai arrivando, c'è qualche problema? Che cavolo si trattende? Andiamo giù che hai attaccato, ce l'hai attaccato tutto perché stai rinunciando. Però qua il segnale è molto basso. Rispetto al tuo segnale, tu qua a quel ci devi arrivare tra l'8 e il 9, ok? Diciamo più 9 che 8 con Galaxy e con la radio grande mi deve fare 9 più 10 invece si sì, Santiago 6 con picchia 7 Sera con il radio non veniva la manicolina, così abbiamo spazio anche agli parliamo solo noi. Gianlu, ti saluto, ci sentiamo dopo. Allora, vi abbassa. Ciao Giancarlo. Quindi un pochino se ne riuscite, dando uno sguardo a vedere se c'è l'antenna sotto, se siete rabasciata, abbigiata, non lo so. Quindi c'è l'antenna di Alessio, vabbè, Gianni e il QRX che vanno a uscire, e chiunque fosse in ascolto. Ci sentiamo più tardi allora, ok? Le prime antenne se ci si. Non c'è, le prime Gianni. Ok, grado, ok, perfetto, dai. Buon QRX allora. O quelletti che sia, sentiamo dopo, dai. Adesso mi finisco ancora qui perché c'è ancora un po' di roba da fare, da pulire, da fare un po' di polvere, sai, non ci dà un po' garito e tutte cose. Avanti Silvio, sentiamo dopo, ciao ciao. Ciao ciao. Per capire, erano finito altro. E qua ne hanno le palle piene di sentirlo e vederlo, no? Quando tutti così giù e non puoi andare sempre per le stesse cose, sempre per le stesse cose, o perché hai stato a pagare, o per te, capito? Cioè alla fine, anche tempo fa mi ha detto, guarda, se ne vale la pena, bene, se no è già fuori, domani mi ha detto, oggi, ieri è già fuori, capito? Non tanto adesso, non si sa come andrà a finire, se aspettiamo intanto cosa succede. E in più comunque appena finire il contratto non è che siano molto allegri di tenere una vita leggera, capito? Dove era riferito il discorso. Anche perché ha sempre problemi, causa un sacco di problemi, la gente ne ha le balle in terra, soprattutto loro, no? Quindi lei vuole un'azienda che si comportino bene, no? Sta qua per capire. Così è. Purtroppo è così. Poi via. Quello che mi compreso è uno che va una vita di travaglio, di esperienza, di professionalità, no? Vabbè, ma per riferisci tu è un altro discorso, perché lì vogliono tagliare il personale perché vogliono ridurre le spese. E quindi sarà dura, ma vabbè, intanto c'è da aspettare. Poi al momento so che ne uscirà un gran problema, ma aspettiamo. Oh, già la giudice buona assisti della Vinis. Se no vedi delle roccoppe di più. Santino, filmando l'anno, Franco? Ah, Santino? Senta! No. È a poco, continuo a credere, sembra che come sta? Perché non ho detto che l'avevo fermato i primi di gennaio, io l'ho già avuto a marzo. Ah, prendi una mia pelle, dai, perché ne hanno mandato una con noi. Capa di Roger? Sì, ne conosco parecchi di quella ditta lì. Sì. Molti ne conosco. Beh, la maggior parte sono quasi tutte le droga. Gli altri li sono mandati in chiesa, io non so. Tommaso Giulio. Ah, Tommaso, sì. Mi pare c'è risorso, no? Sono andato su tutto, mi hanno visto. Ah, no, bugia, sì. Non ho capito chi è. Molto vicino. C'era ancora, che era solo. No, era lui il presidente. Tommaso Giulio. Con l'animale c'era già tutto il suo. La figlia è morto di un medigliente, eh. Ecco, infatti ha fatto fallire una cooperativa, La cooperativa si pensa che c'era quello, ma non si può fare la domanda. Quindi vabbè, va. Speriamo che tutti gli assati si rivolgano a un paese. Non bisogna augurare. Con questo poco di esperienza che faccio non si augura già niente a nessuno. Una cosa è fitta. Chi non si è rubato non passa nulla. E lui che semina vento l'ha cogliuto in pesce. E ma lo sai cos'è? Ti ha rovinato un casino di gente. Ma rovinato. Ma rovinato veramente. Ah, e siamo stati tutti che ci sono fermati. No, è che da poi ci ha pregato una situazione che pure a casa e la famiglia e tutte queste cose qui è un dramma, è un dramma veramente. No, non vedo un dramma. Lavorava a Miami. Papà di Amici mi ha litigato giustamente in Italia, mi ha litigato. Ciao. Sì, andiamo lì. Critica, comunque non ce l'hanno mandato in casa integrazione assieme ad altri, per capirci. Sì, già lo so che è in casa integrazione, infatti mi ha fatto il cristiano. Ma non si vuole il cristiano, ma credo che le facciano fuori adesso, intanto il fine navale, quindi tu? Non so tu, mi sarei pagato il punto di politica in casa integrazione, sì, ma quando viene a pagare il operaio, a tutti i miei venire qui, fate di più, ma tu hai visto. Sabu. Ecco, mi capisco. Non mi sa che ne avevo qualcuno. E quindi, abbiamo capito che la cosa la resta ora è un capello di tutti gli accorsi, è un capello di capire che si va che mi ha fatto lui poi è molto che ha fatto il vicino ma sarà più grande di un'altra addirittura mi ha fatto il vicino. Ma comunque sempre una gara, sempre via di insomma. Vediamo solo ci sono sempre, no? Ma è ricordo, è il premio già pure, ma di nuovo danno, è il premio già in giusto. Ma sempre. Ma figlia Gianni. Ehi Avani, sono le 18 persone oramai, vedi? Vabbè, discussioni che non si fanno nel teatro, guarda, alla radio, tra i talibar, in carriera, quando è un bel tagliato in gratuno, non si fa vedere, lascia la banca di la situazione, fermo, è la di grazia che siamo cacciuti tutti gli altri. Comunque non è un discorso facile, è giusto se ne parla perché insomma sono problemi che camminano. Non è fatto che andrà a finire, come andrà a finire, e poi io credo che più anche giù, che diciamo che giù è l'unico sito che c'è ormai, se muore quello lì, ciao, allora, boh, è meglio che ce ne andiamo in Africa. Non manca di la è brutta cosa, brutta cosa. Cosa in Africa non bisogna essere materiale giù? Ma noi piantiamo gli urti, no? Come ce l'ha Gianfà, Manetta? Gianfà? Eh sì, ma non lo so, l'hanno fatta la cantenna che ha. Non è andata a vedere. Oh Gianfà, come fai la radio basta? Quando vai a fare da vivo, no? Sì, sì, ho fatto il lavoro di radio, lo devo passare anche, devo passare anche da Giampaolo io. No, qualche cosa deve essere successa veramente a questo punto, eh. Ma Giampaolo non è che ti sei confondendo con uno del polo l'antenna, no? Sto mettendo in dubbio la cosa che ha fatto, se tonto, ma sai pure a me mi è capitato una volta, te la metti con l'antenna, e poi è successo, che è successo, e non ha già attaccato un cavo che non era manco, era in chimica, la fate spesso era, e non era nulla attaccato, io ho convinto che era l'antenna, correndo un cavo, ma poi il muovo, mi sta entrando il cavo dell'antenna, e devi attaccare, ho detto, ma vai da un po'. Scusa ma se stavi un attimino, siccome ti so che si vende delle trovaglie in chimica, ti si vende tutti altri i fili, ne è bucato tutto quanto, a metterti così una cosa all'altro che non fai segnato nulla tu. Poi Giovanni, è un garbuglio di fili in chimica hai? No, non lo so che a dirti, l'ho messa l'altro giorno, per me li hanno collegata, mica non hai il cavo collegato allo stendino lì, dove appena la roba per asciugare. Manco ti sento più, cazzo. Che fine che hai fatto? Una bocca di sedi lì. Come scendo, non so io che... A me? Sì, cosa stai facendo? Niente. Sì, sono qua. Ciao Gianlu, ci sappiamo, ciao Gianfa. Ciao Franco, ciao Vanni, ciao Fred. Ciao Gianluca. Ciao Vanni, a presto, stai bene, ciao Franco anche te altrettanto. Via. Gianluca. Ciao Gianni. Ciao Gianluca. Sto uscendo con un watt e mezzo, dimmi come sto uscendo, cambio. Ma fare il punto, ma come vanno i dati? Oggi tu cosa ne longa? Quasi a 9 sei. 8-9 modulato, prima 6-9-10. No, no, torna come te la prima già, metti come la prima perché sto guardando una cosa qua, che ho fatto un po' di lavoretti. Volevo vedere anche il tuo segnale. Guarda, adesso il segnale 1-2-3-1-2-3-1-2-3. 9-15, lascia tutto così com'è. Come mi ascolti tu a me con 10 watt? Neanche 10, 8 sono. 8, 20, 40. 9-5 si dà. Gianpaolo un attimino che stava controllando la batteria, come si chiama? L'antenna, cioè, pare che faccia ancora normalmente problemi. Antenna. Ma cosa ne so quello che si sarà? Che cosa c'è stazionario? Ah, il vicino si è messo un filo che è collegato il coso da stendere. No, non qua sta arrivando bene, sta arrivando 9-5, qua sasso. E il segnale suo, sempre così mi è arrivato Gianluca a me. No, Gianpaolo, ciao Gian. Ah, Gianpaolo, Gianpaolo sì, è più basso, hai ragione, ciao Van. No, Gianpaolo ha ragione, era basso, gli ho detto anche a Claudio stasera, ha detto come sta facendo così basso Gianpaolo, dice è vicino, l'ha fatto un buco e gliel'ha abbassato in terra, capito? Quello che c'è all'ultimo piano. E l'ha portato dentro l'antenna. E non sarà bucato a parte la bufolandura. E allora, minimo è in terra per l'antenna. Vabbè, Gianpaolo, via. Io mi lo butto una manta, una voce, ma tutti, butta vento. Incementato il palo prima e da buio butta la manta. Tu che così non si può fare, perché sennò stai sempre combattendo in chiesa. Bah, te lo dico io, io ho anni comunque, lo stai. Anzi, ho poco la carretta, non mi sono andato da un'altra parte, ma duravamo fitta, non so che fare. No, io l'ho tolta dopo 9 anni perché, dico la verità, mi stavo facendo stazionari e tutti mi stavano facendo le segnali a più basso e cose. L'abbiamo tolta con Fabrizio, siamo andati in garage suo, è tornata la nuova fiammante, l'abbiamo fatto. Smontata tutta, quelle cugne che ci sono, tutte cose tutte lucidate, tutte fatte, e cambiate le fascette, rifatti il radiale, tutto tanto, eccomi qua. Sì, guarda, intanto c'è poco da fare, mi sono tentata acqua dentro il PL, no? Ho passato delle viti, toglievi tutto, è una frustata, non è che ci sia niente da, di particolare, quindi è un'antenna anche fatta bene, con costruzione meccanica eccezionale, pensare, no? E quindi va per anni, se è, va per anni, non c'è per. Una volta messa, se metta bene la prima volta, comunque è del culo, può anni, insomma. Io ne ho preso una che avrà almeno 30 anni, e c'era Franco adesso che la sta usando. Capito, ho sbloccato la qui, l'ho messa sul tetto e l'unica cosa che si è rotta è il tetto di sopra, come sempre si è rotta quello lì, la parte più debole dell'antenna, ma ti trova 30 anni e allora per lui l'abbiamo ripulita, messa, vedi, e vabbè, funziona, certo è, non è perfetta, non è nuova, non è, però funziona sempre. Vabbè, non sento tanto gente che ce l'ha 30 anni, anche Giulio ce l'ha 30 anni, e un sacco di gente ce l'ha avuta 30 anni, ce l'ha Volpe, ce l'ha 30 anni. E la parte dove attacca il piede gli ho cambiato, tutta la piastrina io gli ho cambiato. Vai, c'è 4 vicine, infatti solo lì, il discorso solo lì entra l'acqua, si crea ossido e ti crea insomma quel problema della stazione, se no per il resto non ha niente, lo sai dopo, non ha niente, c'è il tiro della bobina, poi la bobina quella mi pare che hanno deciso di spire, quella lì che è anche un filo abbastanza buono, e certo, quando l'hanno fatta bene. Io ho quella tipo vecchio, capito? Non c'ho l'ultima che hanno fatto. C'ho tipo vecchio, brutto. Adesso c'ha, invece che avere il radiale vetrone, se non c'era in alluminio. Gli ho ricomprato i radiali nuovi. Ho fatto un buco, ho messo un bullone passante in acciaio. Fissato di vetro, come si docca. Li ributti ne avevamo un cioccolato con l'acqua caldo per farvi per tappare il buco e in più tutto quanto vulcanizzato alla perfezione. Il grasso, dove stai dicendo tu, lo riempito di grasso di quello al litio, riempita tutto, di modo che, comunque quando io dopo un anno gli ho tolto il PL era ancora nuovo, lucido, perché l'avevo coperto con le, anche se dico che non si fa, io l'avevo coperto con la, con un nastro vulcanizzato, tirato bene, tu qua ti hai messo il nastro normale sopra. In più la vasellina non si è mai ossidato, mai. Sì, adesso, non so, anche questa è la prima serie, la Mantova 1 e 2. Anche questa che ho adesso è vecchissima, ma vecchia proprio, mi ricordo quando avevo 22 anni la usavo, per dire, questa ha più di 30 anni anche questa qui, ma funziona sempre. Ma no, ora vanno bene, vanno benissimo. Allora, che cosa vuoi fare? Gian Paolo era sì, ho rianato un po' sopra e non la sento. Sì, è che quelle antenne sono fatte con un materiale molto leggero, vanno bene, quando sono piazzate come antenna va bene, come antenna, però Gian Paolo, ti voglio dire una cosa, c'è Massimiliano che ha alcune antenne che sono molto più robuste di quella, le sta vendendo, ne ha 5 o 6, ne ha anche 2 radioamatoriali mi pare, una l'ha promessa a Claudio, e poi le altre le sta tutte vendendo, ne ha una tipo Grand Play con i radiali, a un brand così, e poi c'è la B27L, la conosci? E la scusa che è arrivata gente, riprendo dopo, no? Ah, se ne va, no. Cioè, ci sentiamo dopo, no? Io non mi avete a quello che dovevamo andare. Vabbè, vabbè, vabbè, non c'è problema. Buona serata. Buona serata. Avanti, Gianpa. Gianluca, ci sei? Sì. Buona sera. Passo di radio, provo a vedere il segnale. Anni? Basso sì, adesso di segnale, sentiamo 7. Guarda adesso? Sempre 7. Parla tu latino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene. Abbai da gomma. E controlla adesso. Prova. E 7 appiti positivi però. Vabbè, non una gara. Allora, Nara, io. Che ti sei fatto? Gianni? Oh, Gianluca, cosa stai facendo di preciso? L'accordatore sto controllando, Gianni. Allora. Ok, banda C, già ci dovrebbe essere. 9 e 5. Sì, ma ero... già quando ti ho chiesto, no, però sono scelto con un vaso, finalmente? 9 e 5. Prima, hai detto così a posto? Sì, così. Anche la radio migliore. Poi da roba, sul segnale. Non so com'è. Ecco, prova a modulare tu Gianni, fa una cortesia al secondo. Ehi, così mi dai anche il segnale adesso. Segnale. Capito, a vedere un po' dove a salire il più possibile. Cappa, guarda, guarda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dovrebbe essere regolare. Se guarda, il lavoro è rosso. Gianluca.